Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Il 19 giugno del 1944 a Rio de Janeiro nasce uno dei più noti autori ed interpreti della bossa nova, Francisco Buarque de Holanda, noto come Chico Buarque, cantante, compositore e scrittore brasiliano, estremamente noto in Italia. Ha dato voce ai più grandi cantanti del mondo. Questa è la sua canzone più famosa e questa è la sua voce. Oh, che será, che anda sospirando por las alcobas, che anda sussurrando in versos y trovas, che anda escondiendo bajo las ropas, che anda en las cabezas y anda en las bocas, che va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritando en el mercado, está con certeza en la naturaleza. Será, será que no tiene certeza ni nunca tendrá lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá que no tiene tamaño. Oh, que será, que será que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, lo sueño de mañana las meretrices. E allora, signori miei, benvenuti. Domenica 19 giugno abbiamo cominciato con Chico Buarque. Rido perché vicino a me mi ha raggiunto una persona che conosco a malapena, insomma, da qualche anno. E niente, non riesco, perché raccontare la tua biografia. Allora, nasce a Roma nel 1960, il primo marzo. Martedì grasso. Che era martedì grasso. Cosa è successo? Te lo ricordi? Perché martedì grasso, no, tu sei nato a carnevale praticamente. Sì, ho fatto uno scherzo. Ancora ricordo il dolore di quando mamma ha provato a togliermi la maschera, pensando che fosse una maschera, e poi invece si è resa conto che era proprio la mia faccia. Roberto Ciufoli, buongiorno. Lo scucciato della premiata ditta. Scucciato. Perché scucciato? Perché senza capelli. E quindi è scucciato. No, scucciato. A qualcuno piace calvo. Esatto, poi uno ti ha detto: non è sei pelato, hai i capelli postdatati. Che credo che sia stata l'offesa più divertente che ti abbiano fatto. È stata molto divertente, anche perché tra l'altro era l'offesa minore, visto che stavamo su un campo da tennis. Ti ricordi? Stavamo giocando il torneo Tognazzi. E il fatto di dirmi dei capelli postdatati è riuscito a superare tutte le mancanze tennistiche che c'erano. Vorrei fare una trasmissione lunga 3 giorni almeno per parlare di Roberto, perché è anche parlare un po' di rimbalzo, ovviamente non tanto di rimbalzo di me, visto che nasciamo nello stesso quartiere, io qualche mese prima, Monteverde Vecchio, e da lì, dalla terza media fino al liceo, all'ISEF, l'ISEF di Roma, adesso IUSM, siamo professori di educazione fisica, soltanto che a me si sono scordati de dammer fisico. Beh, ma è bello, però insomma ha cambiato nome continuamente, adesso, sì, grazie anche ai nostri scioperi saremo anche dottori di scienze motorie. Ah, siamo dottori di scienze motorie. Accidenti, me cogliombo. No, la cosa bella anche fra me e Ciufri, il professore fisico, lui ancora mantiene una certa fisicità. E una volta in una trasmissione presentata da Magalli, lo ricordo e lo racconto con piacere, perché io dissi: beh, col corpo di Ciufoli, la faccia mia stavamo a Hollywood, Giancarlo. E lui in diretta disse: sì, ma che la faccia di Ciufoli e il corpo tuo stava dal circo. Per cui fu una delle offese più divertenti anche quella. E potevamo andare avanti, non nel circo Buarque. Ah, esatto, io ho cominciato con lui, mentre io presentavo la canzone, lui si è lasciato andare. Una canzone famosissima di Chico, qual è? Scusa. Pensavo che poi apriste con quello. Ma questa è la più famosa. Ma no, lui che ha dato testi, ha dato canzoni, voci a cantante, sì, anche la nostra cantante italiana. Sì, Mina, la banda, per esempio. Finché la banda Passuels. In brasiliano. Però è là che Chico Buarque ha deciso di non dare più testi. No, ma la famosa. Iannacci, Pedro. No, non era questa. Queste sono quelle famose. Ma neanche ne parliamo. Era Finché la Buarque va. Vedi quanto sei cretino. Siamo a Radio 24. Orietta Buerti. No, non era lei. No. Non si può fare. Questa è una trasmissione che parla di voce. Tu l'hai sentita, l'hai ascoltata qualche volta domenica, molto ascoltata. Ma io l'ho domenica non riesco. Arrivano già i primi messaggi di grandissimi complimenti. Quando è che vi rimettete insieme? Ma non quando è che la finite? No, questa ma non è quello. Sono tutti osannanti, ma già quando venne Tiziana Foschi, già il web, io neanche ho dato il numero, ovviamente lo conoscete, 349-238-6666, insomma, lo conoscono perfettamente. Ma guarda, ma anch'io, sai che veramente lo stavo facendo prima e ho trovato occupato. Per... No, guarda, Roby, adesso allora, non no, mi fai trovare le parole, non trovare le parole con te, mi sembra veramente... una follia. Tu cominci presto anche tu a pensare alla voce, all'attore, a fare teatro immediatamente? Ah certo, ma ho iniziato alle serie. Ho iniziato presto. Quando hai cominciato a pensare di voler fare questo mestiere tu? La verità. Non ci ho mai pensato veramente a fare a dire farò l'attore, non ci ho mai pensato. È successo poi che da bambino a 10 anni, quando stavo negli scout, e facevamo le scout, scenette. Tu e Lea Draghetti eravate negli scout. Sì, eravamo negli scout ed era molto molto bella, un'esperienza bellissima. E quando facevamo le scenette nei campi la sera al fuoco, mi sono trovato che a fare le scenette mi trovavo bene, sceneggiavo, oltre a recitare quello che mettevamo, perché poi mettevamo tante volte in scena delle barzellette, i primi testi sono stati quelli. Sì, e poi da là è andata avanti, poi ci siamo incontrati a scuola e là è stata la fine. Esatto, però io avevo 7 condotte, tu no, non si capisce, lui aveva la faccetta da angioletto, coi capelli pettinati con la riga da una parte... Il signor Ciupoli. Adesso ho messo invece i capelli da una parte, esatto. è rimasta soltanto la riga. Sì. Ma d'altra parte, scusa, tu dicevi senti condotta, io la faccetta, sì. Io facevo l'attore, mica. Eri bravo, però al quinto t'hanno fregato anche a te. Ci hanno sospeso insieme, hanno capito che c'entrava qualcosina pure il dottor Ciupoli. Beh, da lì è poi cominciata proprio l'avventura dell'Allegra Brigata. Allegra Brigata, prima della premiata ditta. La nostra frequentazione di un laboratorio teatrale a scuola, quando durante un'occupazione della scuola, esatto. Siamo andati a scuola, siamo entrati nel laboratorio teatrale perché ci piaceva, avremmo voluto fare quello. Siamo entrati, appena abbiamo aperto la porta abbiamo sentito una ragazza che dice: perché io ho quello tutta veramente la mia vita, allora io il teatro e tutto. Siamo detto bene, grazie, arrivederci, chiusa la porta, e da là abbiamo iniziato la nostra. È vero, non mi ricordo il nome, ma poi è un attore bravo, regista bravo, insomma quel periodo di grande ricerca, però non mi ricordo il nome assolutamente. So che la mia fidanzata da allora mi beccò al laboratorio teatrale il pomeriggio e mi fece uscire e mi cacciò via, però ho fatto ugualmente questo mestiere insieme a te, insieme a Francesca. Che bello, Tiziana era è venuta dopo, e poi Massimo Popolizio, che avremo prestissimo in questi microfoni, è un attore, è uno dei primi, forse il primo attore del teatro con la T maiuscola, Massimo, sì. Fabio Ferrari. Ma era già bravo dall'inizio, era sempre stato il più bravo. Il più bravo di... Ma no, di te no. Cioè... No, io lo dico, guarda... Che poi potete sapere che Roberto riesce a cambiare notevolmente sia la voce, la vocalità, perché i dialetti eccetera, poi glielo chiederò nell'altro blocco, questo sta per terminare, ma anche fisicamente è incredibile perché per esempio Giulio Cesare e Manolo Dita a Shakespeare, il primo spettacolo che è stato lo startup della nostra carriera al Teatro Centrale, poi delle Muse eccetera, fino ad arrivare dove siamo arrivati. Lui faceva due parti, Casca era un ubriaco. E poi l'uomo di Cesare nel nostro racconto che era Bruto, che aveva una storia con gay, lui con Giulio Cesare. Cesare, esatto, e poi lo uccide perché lo tradiva. Vabbè, per gelosia, ma quella sì. È un'altra storia. Allora lo farei ancora. E tutto, arrivi vestito da cuoco, un cappello da cuoco alla fine, e Cesare si uccide perché dice: cuoco tu Bruto, figlio mio. Questa l'avevo rimossa. No. Adesso mi hai dato un ricordo che mi accompagnerà per i prossimi però 36 anni. Anni fa faceva ridere, era veramente una grande intuizione. Ma volevo dire un'altra cosa, nel senso che lui era Casca con i suoi capelli neri, ce l'aveva, e poi Bruto questa parrucca da Lina Volonghi bionda riccia. Un giorno, per dirvi quanto cambia, si fece male alla mano, si ingessò una mano, e la gente dice: guarda che fatalità, due attori che si sono fatti male alla stessa mano. Nella stessa compagnia, incredibile. La stessa cosa con la premiata ditta, mette le parrucche, sul set trova sempre qualcuno che lo caccia via perché non lo riconosce. Sì, no, è vero, io bastava certe volte un paio di baffi. Esatto. Ma tu ricordi al contrario, ma allora vi racconto, avevamo fatto anche una serie di candid camera e eravamo truccati per essere irriconoscibili, quindi proprio in strada, un semaforo, facciamo delle cose, il servizio danza al semaforo. Beh, un'idea geniale comunque. No, era molto, ma veramente, veramente molto carina. Ballavamo la cosa durante il rosso per prendere poi dei soldi. E abbiamo fatto anche in un'ora, mi ricordo, c'erano le lire, abbiamo fatto qualcosa tipo 70.000 lire, insomma, una cosa interessante. Comunque eravamo tutti truccati per essere appunto irriconoscibili, talmente riconoscibili che Pino ha incontrato un suo vecchio compagno di classe che l'ha visto con barba lunga, la pancia, i denti finti. E appena l'ha visto gli ha detto: mamma mia, ma come te sei ridotto? Sì, ha detto proprio: ma come cazzo te sei ridotto? Sì. Per cui pensate un po', ero riconoscibile anche nel massimo, ciufoli no. E allora siamo arrivati all'inizio, avete capito che è un inizio diverso dal solito, anche perché veramente è una vita che cammina in parallelo da oltre 40 anni. Mamma mia, non me lo dire. No, infatti tu detto. Veramente sono di più. Iniziano a essere 43 anni. È vero, 43 anni, perché dal primo diciamo che 14 anni. Incredibile, ne ho 42. Esatto, e questa è la cosa incredibile. È incredibile pure, ma noi abbiamo appena cominciato. Restate con noi perché Voice Anatomy è appena cominciato. Voice Anatomy. Eccoci, come promesso, secondo momento insieme all'amico, il fratello, il compagno di avventura, di studi, di mamma mestiere, mia, Roberto Ciufoli. E sì, ce ne sono tante di cose, così tante cose da dire che certe volte non te ne viene in mente mezza, ma è stata una bellissima avventura. Ed è tuttora una bella avventura perché lavoriamo ancora insieme, insomma, a teatro. Ma non solo lavoriamo insieme, perché quando siamo in teatro insieme noi riusciamo ancora a ridere. Allora, i casi sono due: o siamo definitivamente stupidi e sì, quindi cioè, ridiamo ancora delle cose che facciamo, oppure invece abbiamo talmente interpretato bene il mestiere che facciamo, che è un gioco, e che quindi giocando insieme quando siamo sul palco e poi abbiamo, ci viene da ridere, ci divertiamo. Abbiamo superato le 1000 puntate in televisione insieme, pensa. 1000 puntate abbiamo fatto? Di più di 1000. Eh sì, tu pensa, soltanto Pronto Chi Gioca sono state più di 260 puntate. Quando venne ospite l'Agolino? Era martedì. No, era la terza puntata. Gliel'ho detto sempre, ogni volta di Agolino, perché quando venne Agolino, io vi parlo di 30 anni fa, quest'anno sono 30 anni. Pronto Chi Gioca con Erika Bonaccorti, sì, era... nel 1986. E l'Agolino è venuta alla terza puntata. Ma l'indimenticabile terza puntata. No, beh, perché io ero rimasto affascinato totalmente dallo sguardo di questa donna che sembra, quando te guarda, invece mi hanno detto: guarda che Pino è miope. Per quello mi ha deluso da morire. Era miope. Si avvicinava che non ci vedeva. Cioè, accidenti, guarda che sguardo penetrante. Beh, no, non te vede. Non te vede proprio. Cioè, anzi, se non te scansi, te penetra proprio lei direttamente, perché proprio trapassa i corpi. E poi tu invece cominciasti prima di noi a fare cinema, perché l'anno dopo... è stata una bella esperienza con Sergio Corbucci, sì. Il film era Night Club, ed eravamo i protagonisti della storia. In quel caso eravamo Massimo Vermüller e io, ma il cast era quello che si direbbe adesso stellare, pensando ora. Sì, invece era... di Natale, perché sì, c'erano sì, tutti. Sì, eravamo tutti più o meno all'inizio. C'era nel film c'era Christian De Sica. C'era Mara Venier pure, che faceva l'attrice. Ancora in quel l'attrice, caso Claudia, sì, Gerini. C'era Claudia Gerini, c'era Sabina Guzzanti, c'era Sabrina Ferilli. C'era Sabrina Ferilli che ancora non era partita, no, in tromba con la sua... ho detto un termine sbagliato, in tromba. No, no, tromba, no, si può dire. Se lo utilizzi come verbo passivo. No, anzi. E c'era anche Maria Pagliato. Pagliato è un'altra grandissima attrice di teatro. Se leggete quel nome su qualsiasi locandina teatrale, entrate, è sinonimo di grandissima qualità. Che bello parla bene delle persone. Ma pensa, vedi? Non so se è più bello parlare male o parlare bene delle persone. No, parlare bene, parlare male. Ma sì, ma ci pensano le persone da sole a far parlare male di loro. Almeno uno parla bene e fa scoprire dei lati che sono nascosti. E tu hai provato pure a farmelo fare quel film. Hai chiesto a Sergio, sì, di farmi fare questo film. E Sergio venne da me, mi guardò e dice: Pino, questo è un film sulla fame. Cioè, quel periodo la gente c'ha fame. Io ti guardo in faccia e mi sembra che hai già mangiato due volte. perché c'è la faccia da Mila Cotugna. Che grande che era, sì. Sergio Corbucci era proprio bravo, sì, era veramente bravo, era bravo a girare, ed era bravo proprio nel disegno generale, nel ritmo delle battute. Io mi ricordo che noi la mattina arrivavamo prima di girare sul set a fare una prova letta soltanto di quello che avremmo dovuto dire. C'era anche Sergio Vastano, c'era un gruppo di attori brillanti, e quindi ognuno, sai bene, sapeva come dire la battuta, perché chi meglio di un attore comico sa come dire la sua battuta, no? E che quindi ognuno diceva: Sergio, scusa, questa la direi così. Lo diceva: bene, dilla così, va bene. Io farei sì, va bene, fai così. La leggevamo per come dicevamo noi e faceva schifo. Sergio faceva: bene, adesso ditela come ho detto io, e funzionava tutto perfettamente. Al terzo giorno abbiamo smesso di dirgli come avremmo dovuto leggere quella cosa, e dicevamo soltanto: dicci. La famiglia Corbucci, insomma, ne ha fatti tanti, ma era il periodo. Ancora il cinema, c'erano tutti, gli attori erano tutti vivi, i grandi registi erano tutti vivi, sì. E c'era spazio per tutti, e questa è la cosa che mi stupisce. Noi quando abbiamo cominciato con il GB Show, che era il Gino Premier Show, il sabato altro sera su maestro. Rai 1, che noi salutiamo ovunque sia, che ci hanno voluto loro, con loro, perché videro questo gruppo di goliardi dedicati al teatro, al cabaret, che non ce n'era ancora, non ce n'era, parliamo degli anni 80, non c'erano attori televisivi che facevano teatro. No, guarda, posso dire una cosa un po' presuntuosa? No, dillo. Noi ci siamo, io credo che con la premiata ditta, adesso a distanza poi di tanti anni, mi rendo conto che ci siamo inventati un genere, nel senso, il genere, nel mischiare i vari generi, nel mischiare quella che era la nostra cultura, la nostra preparazione, perché non venendo da una scuola ma dalla strada da quello che vedevamo, quindi noi mettevamo insieme nel nostro teatro, televisione, pubblicità, cinema, tutto quello che poteva arrivare di sollecitazioni dall'esterno, con un ritmo forse nato che non era abituale in teatro, no. E neanche poi in televisione, e quindi noi abbiamo aperto una strada che è stata quella poi dopo, che è diventata quasi usuale il fatto di fare questa miscuglio, siamo stati poi sempre stati figli della gente, mai della critica, anche se la critica ci ha usannato quando eravamo Allegra Brigata. Quando siamo diventati premiata ditta, non riconoscendo che eravamo gli stessi dell'Allegra Brigata, ci attaccava per lo stesso motivo per cui ci esaltava poco prima. Prima era un ritmo forse nato teatrale con la rottura della quarta parete, dopo questi giovani attori comici televisivi che rompono la parete del teatro con un ritmo da telecomando. Non dimenticherò mai. Sì, è vero. Per lo stesso motivo per cui ti posso esaltare, ti distruggevano, ma non è un problema, perché noi siamo sempre stati figli della gente. Anche il nostro ultimo spettacolo insieme, poi il titolo l'ha trovato Roberto come al solito, che è Ti insegno un par de ciufoli. Io credo che meglio di così, no. Poi, chissà che spettacolo vai a vedere, dici, ti domandi, no, certo. No. Pensi che sia un approfondimento sui meandri nascosti della personalità e della critica letteraria di Kant, Hegel, e certo Young, come l'ho chiamato io in un film, anche figura orrenda, stavo doppiando Freud. E ovviamente lui dice: poi ti racconto, ho fatto una inutile, era Viggo Mortensen, film di Cronenberg, eccetera. Io facevo Freud e la prima scena era una lettera che io scrivevo al mio collega e dicevo: e sì, mio collega Young. E ho detto: quello è Neil Young, questo poi è Jung. Salutami Crosby, Stills e Nash. Esatto. Ho cominciato così. Sei sicuro che non vuoi che ti racconto com'è andata l'amicizia fra Freud e Jung? Perché secondo me non l'hai colto. Freud non è Freud. Freud è inglese. Ma io volevo un sacco di cose, perché poi Roberto, a proposito di voce, la utilizza in una maniera veramente invidiabile, perché sul set ci siamo sempre dati, anche in teatro, un ruolo dove io cerco di essere la spalla, quella classica del teatro, della televisione, il Gianni Agus, il Ciccio Grazia. No, è un ruolo importante. Detto perché così. Valorizzi, ovviamente, giochi con un funambolo come te, deve dare credibilità, o come Billy Arriva, come Walter Chiari e Carlo Campanini, insomma, erano quelle cose che danno forza e ritmo, e con lui si riesce a fare veramente tanto. Ma adesso manca un minuto e 38, perché io volevo parlare un po' dei dialetti, perché poi riesce un dialetto, mi fanno i segni. Io saluto Alessia Navarro, capoprogetto e autrice, insieme a Mauro Meconi, altro grande attore e autore che sta entrando in sala, perché poi riprende e mette sul nostro sito, su Facebook, la pagina Voi Sanato, mi mettete il mi piace. Sul grande pannofino ci sono state più di 150.000 visualizzazioni, e voi però cliccate pure un mi piace là sopra. Ma no? Io, guarda, se voi ho un sito porno mio, non si può fare. No, Veneto. E se fermo a Veneto? dimmi qualcosa, fermo adesso, fa la foto per metterla sul sito. Ecco, quella milanese. Fai questa foto, allora scusa, mi fai cazzo, perché mi piace intercalare, cazzo, siciliano, c'era io, allora ci facciamo la foto adesso, me la mettiamo sul sito, ci facciamo questa fotografia che minghi ci facciamo, allora, umbro, contadino umbro, una cosa. Devo fare la foto? Sì. Non te la metti, che è sto sito? Cioè, ma io poi la trovo, se sto sito mi dice dove sta, la vado a cercare la foto. www.voiceanatomy non è www, è Facebook, è Face Anatomy. Face Anatomy? No. Non ho capito che dopo facciamo www.facenatomi. Io so che tu vuoi entrare a far parte della radio, a me piacerebbe tanto. Posso fare un provino? No, non adesso, perché fino ad ora devi fare il provino e intanto bisogna fare una domanda. Allora la faccio. Posso fare un provino? No, ma non è una domanda, questa è cartacea la domanda. Vabbè, ma non adesso, nel blocco dopo le farò questo me provino. Blocco? No, tu posso... No, sta zitto. A tra pochissimo Voice Anatomy e ciò che resta di Roberto Ciuffoli. Voice Anatomy. Eccoci signori, bentornati. Voice Anatomy, terzo blocco insieme a Roberto Ciuffoli, che abbiamo salutato poco fa. Adesso invece c'è una persona che vuole fare un provino per entrare. Così posso fare un provino? Che no. Mi sono bloccato prima, ma mi sblocco? Sì, lei vuole fare un provino. Intanto lei sì. Si rende conto che l'addizione non è proprio questa, la trasmissione che parla di voce, la sua voce. Beh, perché è... che c'ha la voce mia? Che non ti piace? Senti un po' come chiamo le pecore. Ninetta! No, non è quello. Sente come parla. Cioè, come parla? Che non posso parlare così. Ecco, non posso parlare così. Parla un po' come ti pare, che me ne importa a me. Che me ne importa a me? Che me ne importa a me? Se non importa niente a te, quello è una cazzo. Me ne frega a me. Ma non è quello. È che uno per fare il presentatore oppure lo speaker radiofonico ha bisogno sicuramente di un certo tipo di ritmo nella vocalità, eccetera. E poi bisogna preparare. Lei prepara come qui, faccio il ritmo? No, il ritmo non è quello, ma deve preparare una sorta di questionario, perché qui è una radio seria, Radio 24. Insomma, lei si rende conto? Certo, lei certo. Si rende conto? Mi rendo conto. Lei sì, si rende conto? Io mi rendo conto che sto radio. Ecco. Senti, ma domani possiamo farlo domani? Che cosa? Perché lo 25 mi viene meglio. Ma no, radio, lei come si. Intanto come si chiama? Rocco. Rocco, benissimo. Rocco è un diminutivo? Sì, De Gino. Ma modo che può essere un diminutivo Rocco? Non lo so. No, te lo dico. Lo diminutivo dei Marocco. Marocco? Sì, perché quando ero ragazzino mamma mi cercava e diceva Marocco, dove sta? Marocco, dove sta? No, vabbè. Proprio che sono cresciuto e mi ha trovato, mi chiama solo Rocco. Solo Rocco. Rocco è il suo nome, il cognome? Rocco. Sì, perfetto. Rocco è il suo nome, cognome? Rocco. Benissimo, perfetto. Rocco è il suo nome, cognome? Ma ti sei ingannato? Sta Radio 24 fa così? Bisogna di 24 volte le cose? No, dico Rocco. Lei si chiama... Rock, dai. No, scusa tanto, io non so come... Ma io non mi chiamo Rock. Io mi chiamo Rocco. Sì, ma Rocco, ma non è possibile. Lei si rende conto che un nome... Ho capito, va bene. Allora, no. Facciamo una prova. Sì. Prova un po' di Rocco. Rocco. Che me so io, lo vedi? Ma non è quello. Ma come si può chiamare? Io posso capire se lei ha un cognome, De Andreis. La mamma la chiama Andrea. Andrea De Andreis. Bella fantasia. No, ho capito, ma c'è una diversificazione. Certo, sì. De Ubaldis, sì. Ubaldo De Ubaldis. Sì. De Maranzi. Ma vedi, non è... terzo non è mai venuto. No. Ma comunque non è... Va bene, via. Via, me ne vado? No, via. Dove abita a lei? A casa mia. Sì, ho capito. Intanto la città. La città è quella dove sta a casa mia. Sì, casa sua. C'ha una piazza, una via. Sì. Cioè, che c'è scritto? C'è un cartello. Come è la via di casa sua? Strada di casa mia, no, io la conosco. Sì, no, ho capito, ma c'è una. Non capisco una, che domanda mi vuoi. Domanda semplicissima. Io, per esempio, via Felice Cavallotti. Ecco, lei dove abita? Via Felice Cavallotti. Ma non può abitare via Felice Cavallotti. Ma non mi piace, ma non mi piace manco l'andò. È un esempio, c'è un cartello all'entrata della sua via. Ecco, finalmente fatto la domanda. Sì, c'è. E che c'è scritto? Traslochi, chiamalo ma, numero. Ma no, quello! Cioè, lei dovesse, insomma, uscire di casa, no? Io me ne vado da casa. Via da casa. La sa lontana tanto. E da qualche parte, prende tutti i mezzi. La giornata è bellissima. A piedi, prende l'auto, il trenino, arriva lontanissimo. E dalla bella giornata diventa una giornata terrificante. Pioggia, tuoni, fulmini. Ma lei come ci torna a casa adesso? Col cazzo ci torno, con sto tempo. Io anzi mi chiedo, ma che sono uscito a fare? No, dicevo, lei torna a casa, chiamerà un taxi, qualcuno, no? Sì, lo chiamo, lo taxi. Chiama il taxi. Taxi? Taxi, lo chiamo, taxi. Eccomi. A me è già arrivato, veloce. Sì. Benissimo. Bene. Lei monta dentro al taxi. Monto dentro al taxi. Ecco. Monta dietro. Fammo come se avessi accettato. Monta dietro a te, proprio un certo tipo mio. Guarda, preferisco tornare a casa con la testa bagnata. No, per favore. No, lei andiamo. Andiamo. Benissimo, lei è entrato. Sono entrato. Adesso vediamo dove è. Dove andiamo? A Radio 24, voglio andare a trovare l'amico mio. Scusa, ma una volta prendo un taxi, ma farò andare un po' ma per favore, basta così. Ecco, questo è quello che succede, magari anche improvvisando parecchio, quando c'è una base, ovviamente. Ma tutti quanti ti dicono no, improvvisate. Sì, un po' sì, ma c'è la comicità, credo che sia il lavoro più serio che esista al mondo. Ah beh, questo è veramente il gioco, è il gioco, guarda, lo dobbiamo fare seriamente, quindi per poterci divertire noi abbiamo la grande fortuna di poter continuare ad essere bambini. Sì. E siamo bambini tutti i giorni sul palco quando ci esibiamo, ma quando finalmente torniamo a giocare. E avere la fortuna di poter giocare seriamente come giocano i bambini, perché il bambino pure ti dice, poi si chiamano player, no, gli attori all'estero, e come no, coloro che giocano, i jouets in Francia, noi recitiamo, noi attore Mauro. Però vedi la differenza spaccata, per esempio, con il francese, e questo per dirti invece la considerazione. È vero che una lingua, moglie francese. Ma che la lingua poi ti dà proprio della nostra professione, che noi facciamo, cioè ci sentiamo anche qualcosa di più, facciamo gli attori, cioè diciamo gli attori così e siamo considerati poi sempre col tassista che ti dice sì vabbè, ma poi per campà che fai? Perché esatto, quando non ti riconoscono. E nella nostra lingua tu dici io faccio l'attore. Sì. In francese dici je suis acteur. Io sono l'attore. Io sono attore. È proprio differente la considerazione, che per noi è rimasto un mestiere, ma che sembra quasi in via d'estinzione, che sta andando come un lavoro artigianale qualsiasi, mentre invece in un'altra lingua, in un'altra accezione, quindi con un'altra considerazione, tu nasci, io sono un attore, nel senso che è come fosse un, non voglio dire diritto di nascita, ma un regalo che poi dopo puoi dare agli altri. Com'è in francese? Je suis acteur. Ma che figo, ha studiato, ma poi ho saputo che la tua tenera età sei incinta. Sì, questo, quello che tu vedevi non è alcol, la pancia che vedevi no, è proprio un bambino che tengo incinta. In me. No, la ma mia visto pancia che abbiamo parlato alcol, di Parigi, entriamo anche in una sorta di gossip leggero, anche perché le persone ovviamente state veramente inondando, ma ci siamo. Faremo, tranquilli, succederà qualcosa. Ne è successa tante, ne succederà ancora. Ma quello che sta succedendo alla pancia di Teodora... Teodora è francese. Teodora è francese da tanti anni, sì. No, sì. Lei è francese. Lei è nata in Francia. Sì, è francese, sì, quindi è francese da tanti anni. Esatto, è normale. Pensa, addirittura da quando era bambino. Lei è incredibile, poi come i francesi imparino a parlare francese già da bambini. Non è facile come lingua. No, pensa agli arabi appena nati. Io mi sono sempre domandato, ma sto ragazzino, come fa a capirli quando questi? Quando capiscono che ha detto la prima parola? Perché prima il bambino fa... magari già parla i bambini arabi, che ne sa, già quando parlano. Qual è stata la sua prima parola? è quella ma appena è nato c'ho fame, ma datti una mossa invece stanno a guardare e sentì quello che dico, mi date da mangiare, questa è spaghetti. Noi ci abbiamo fatto uno scherzo, una fatti 2000, ma su questo abbiamo fatto uno sketch. Il bambino italiano che nasce, che parla così. I genitori che fanno, com'era? Ballama con la brumba. Aspetta, è vero, com'era? No, mamma, io non te capisco. Mamma, non te capisco. Non so che stai a dire. E noi siamo in quella fase con Teodoro. Ci stiamo preparando ad avere un piccolo che nascerà i primi di settembre. Quindi, poi tu hai un figlio straordinario che è Jacopo Rosso Ciufoli, che è ultraventenne. Ne compirà 21 quando nascerà il fratello. Esatto. Pensa. Vive a Londra. Vive a Londra, bravo. Universitario, giornalista. Scrive capoce. Bene, gran è testa. Ti voglio bene come un figlio, perché più cresce più capisco che io non c'entro niente. No, infatti. Cioè, abbiamo in comune il cognome, ma proprio di quello il resto non credo. Ma anche questo, guarda, sempre per recitare il nostro amico Magalli, appena ha visto Teodora incinta, ha detto hai visto, ci voleva tanto che bastava una tournée. Che tu non c'eri. Cioè Magalli non vedo l'ora di averlo artisticamente, posso dirlo, in questi microfoni, che lui ammazza come te, tu ammazzeresti tu male per una battuta. Beh, vabbè, insomma. Ma magari con Magalli ultimamente ci si incontra alle prime di teatro e rimane sempre la costante che la battuta più bella della serata è la sua, è alla sua, fine dello spettacolo. Di qualsiasi spettacolo, anche spettacoli belli. Ma lui riesce sempre a inanellare una serie di... Sempre. Non si tiene un cecio, come si dice a Roma, neanche a pagare. Per cui a 57 anni, fatti? No, 56 fatti. Ma come 56? Sì, no, 57 l'avrei fatti te perché sei vecchio, capito? Ma è vero, 56, perché mi hai raggiunto io 56. Ho 6 mesi meno di te, guarda, quindi ho ancora tutta la vita davanti. Ma io che strazio, poi faccio il 30 agosto, che manca la fine d'agosto, perché non c'è più nessuno. Ma tu sai che forse il piccolo in arrivo nascerà proprio in quei giorni? Della Vergine. È della Vergine, è un altro, della Vergine, come già il figlio precedente, la come tua te, capisci? Esatto, cioè quelli che ti controllano. Così, sì, che ora andando vai? Per... Dove stai andando? Vieni qua, sono le 12.35, vieni, capisci? Qui. Andando per segni zodiacali, io sono dei pesci, il segno opposto è quello della Vergine. Mi è arrivato un amico, un fratello della Vergine e due figli della Vergine. È vero, io e Roberto siamo veramente due opposti. Voi pensate che Roberto, lo dico io, a 18 anni, 19 anni, ha pensato di togliersi tutti i capelli. Ma vi sto parlando di 40 anni fa, quando senza capelli uno pur di averli si disegnava. C'aveva il riporto dalle ascelle, ma non c'era nessuno che avesse il coraggio di togliersi i capelli. E ce l'aveva soltanto, non ce l'aveva Telly Savalas, Kojak e Yul Brynner. Yul Brynner. Fine. Tant'è che quando si è levato i capelli ho detto: Roberto, guarda, è pericoloso, la gente pensa che stai in malattia, perché insomma chi era senza capelli era malato, come chi c'aveva orecchino era gay oppure era tossico. E lui aveva anche l'orecchino ed era fidanzato con un'americana nera. C'è la madre impazzita, tutto insieme, non ricoverata. Sì, ma vi parlo di 40 anni fa, ovviamente. È una cosa straordinariamente normale, ma in anticipo sui tempi. 40 anni fa Roberto era straordinario. Libero. Io ho vissuto a casa fino a 29 anni, tu a 18 anni e mezzo vivevi solo. Perché mi hanno cacciato di casa dopo tutte le cose, mamma e papà hanno detto: dai, tu non hai favore. Mai mollato teatro, comunque anche in varie compagnie, musical importanti, eccetera. Adesso che sta succedendo? A parte che l'ultima domenica o sabato di luglio stiamo insieme alle terrazze all'Eur, dove non vedo l'ora, perché sarà una serata che proprio il defaticante. Esatto, del il giro di campo defaticante. Ma adesso dove sei? Adesso è finita una tournée con spettacoli diversi, perché poi ormai sai che per chiudere 13. Una stagione finisci uno spettacolo e ne inizi immediatamente un altro. E la prossima stagione invece ci saranno, cioè parte con un progetto interessante, perché bello quello dell'Eliseo, la regia di Barbareschi, Mamet è l'autore, Glenn Gary, Glenn Ross, americani. Gran compagnia, perché c'è un cast incredibile, manco solo io. Ma veramente non ci sto io, tutti attori straordinari. No, io non sono attore straordinario. No, sono bravi, belli, interessanti. Sergio Rubini, Francesco Montanari, Gianmarco Tognazzi, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfredi e io. Una bella cosa. E sarà un'esperienza. Sarà un'esperienza drammatica, per dire che il genere non sarà comico. Sì, però poi dopo attacco uno spettacolo da solo dove farò Dio, sempre al piccolo Eliseo. Dio che si personifica in un attore e ritratta col pubblico in sala i 10 comandamenti. Perché insomma dice: partendo, di chi è questo testo? È un testo americano che è in scena adesso a Broadway. È stato andato in scena con Jim Parsons, sai, l'interprete di Big Bang Theory. Che bello questo, no, non lo sapevo, divertente. Questo andrà avanti fino a metà gennaio. Ma bello, perché il presupposto di partenza è che Dio dice: vabbè, c'è d'altra parte, che volete, c'è un lavoro fatto in 6 giorni, non può essere, anche se deve qualche pecca. E quindi ridiscuti con la gente, cioè vada a ritrattare aperto, il copione è aperto per no cui... beh, insomma, fino a un certo punto porti... cioè, la regia è di Nicoletta Robello, che fa parte sempre poi della grande famiglia dell'Eliseo. E il titolo sarà Paradiso 2.0. Bello, questa è bella operazione, mi piace molto. Quindi partiamo alla grande. Forse ci facciamo una cosa insieme a febbraio. Mai, magari. Sì. La vogliamo dire? Sì, ma no, non so, diciamo, tanto poi che sarà un grande progetto. Un grande progetto che girerà un po' il mondo. non c'è giocato sta cosa. Ho comparato col Canada e con New York. E visto che noi ci conosce qualcuno ma lì degli italiani. Ma la musica ce la fa Chico Buarque? No. Chico Buarque ci abbiamo aperto la puntata, non c'entra niente. E pensavo io, pensavo ma fosse no. una qualcosa no. mi stavi dicendo. No, lui è nato il 19 giugno, non c'entra niente. Ah, non è, no. Allora, non sta raccontando. Vabbè. Ciufolo, sei arrivato il momento di salutarti, ma tanto questo è soltanto uno startup insieme a te, Roberto, a questi accidenti. Microfoni di Radio 24. Un primo capitolo. Esatto, insieme, ma succederà che continueremo insieme queste avventure teatrali. Te l'ho detto mai che ti voglio bene? No. Ci sarà pure un motivo allora. Va bene. Allora Ciufoli. Ciao. Il cognome di tuo figlio, volevi chiamarlo tu all'inizio? Parde. Perché viene? Perché almeno Parde scuola. Ciao Ciufoli. Ciao. Andiamo avanti con Voice Anatomy a tra pochissimo, signori. Grazie. Come si trasforma una buona idea in un progetto di successo? Con l'innovazione, la creatività e la condivisione. Il sabato mattina di Radio 24 diventa la voce del crowdfunding con Crowd Me Up, in collaborazione con Appela e Back to Work 24, una rubrica dedicata alla presentazione delle buone idee per trovare buoni finanziatori. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. Tutti i sabati alle 9.30 all'interno di Si Può Fare con Alessio Maurizi su Radio 24. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Voice Anatomy. Bentornati signori a Voice Anatomy, sempre il vostro amico Pino Insegno che vi accompagna nei meandri della declinazione della voce. Ho l'onore di presentarvi un ospite d'eccezione, come sempre quelli che si alternano ai microfoni di Radio 24. Allora, vi leggo un po' di bio, perché non è, essendo un attore dovete sapere da dove viene questa persona. È nato a Roma, lo dico, tanto è un uomo, nel 1950. E a soli 23 anni comincia la sua esperienza professionale presso la casa di distribuzione Panta Cinematografica, per poi passare alla Cinema International Corporation. Nel 1976 viene chiamato dalla United Artists, sempre in ambito ufficio stampa e pubblicità. Nell'81 viene chiamato dalla 20th Century Fox a dirigere l'ufficio marketing. E poi, sempre nel 91, gli viene offerta dalla 20th Century Fox la posizione di amministratore delegato. Giornalista pubblicista dal 79, negli ultimi anni ha tenuto seminari sul marketing dello spettacolo presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma. Attualmente è presidente e chief executive officer della la 20th Century Fox Italia. Presenta Osvaldo De Santis. Ciao Osvaldo. Hai visto che presentazione, Osvaldo, dai. Sei contento? Tu dici da sempre che Radio 24 è la tua radio, non potevi... Assolutamente sì, io comincio al mattino, quando faccio la barba, salgo in macchina, la sento, mi sento l'amico Giovanni Minoli... Ah, puoi fare il palinsesto di Radio 24? Assolutamente, fino a... certo, poi, appassionato di Barisoni, adoro Barisoni... certo, il nostro poi... E rido... sorrido col pazzo di Cruciani, con il pazzo di Cruciani, sì, è la mia radio decisamente. L'unica cosa che saltavi era la domenica, adesso non puoi più saltarla, no, la domenica di solito l'ho sentita perché sono in macchina. Ah, ti perdono, non stai sentendo magari il campionato, visto che ci divide il calcio da questo punto di vista, ci divide un po'. Il calcio è una mia carenza. Senti, prima di cominciare volevamo farti fare un percorso sulla tua carriera straordinaria, della scelta dei film meraviglioso, ma abbiamo visto che parliamo di voci, tu sei assolutamente una voce, e che voce, all'interno del mondo del cinema, ma c'è una voce che ha reso poi grande le interpretazioni di certi attori. Allora con la musica giusta di sottofondo di quel film indimenticato. Ascolterei chi ha urlato la parola libertà nel modo migliore del mondo. Pronto? Libertà! dove sei? Sono per strada, ma figurarsi, si parla di Osvaldo, si parla di Pino. Da dove stai parlando? Claudio Sorrentino, ovviamente, sì. La voce straordinaria di Mel Gibson. Sì. Ma stai in viva voce? Sto parlando da un telefono normale, purtroppo sono in macchina. Sì. E non è viva voce, l'ho messo vicino, anche se magari io con i telefoni litigo, Osvaldo lo sa perfettamente. Comunque io sono bella questa idea di, come dire, di santificare il creatore di voci, anche la voce ascoltatissima. Hai perfettamente azzeccato il titolo. E poi, Osvaldo De Santis. E poi da vivo, pensa Claudio, ne parliamo da vivo. Ancora vivo, esatto. È vivo, e allora resiste lì. È vivo e dà fastidio ancora. Dai. Non dà fastidio, Claudio. No, non è vero che dà fastidio. No. Claudio, sembra che stai parlando da Marte. Parliamo di Voice Anatomy. Fermati un attimo, parla vicino. Dai. Non so che fare. Dai lustro alla tua voce, Claudio, dai. Vorrei, poi casomai ti farò un'incisione a parte. Io non lo so perché. Verrai ospite. Così, va bene. Sì, sicuramente. Adesso io non so, sto chiudendo tutto quello che può dare fastidio. Mi sono fermato. Bravo. Non c'è più il movimento. Prendi quel telefono e appoggialo all'orecchio e parla da parte sotto. Ce l'ho, della parte sotto indirizzata la pizza. Ma questo è un iPhone, è uno schifo di telefono. Vabbè, non c'è problema. Però io non lo so usare. È l'unico microfono che non riesco a sapere. Claudio, quando è cominciato il tuo rapporto con questo signore? Tanti anni fa, perché tu sei anche un direttore di doppiaggio di film molto importanti che riguardano la Fox, non soltanto Mel Gibson, l'hai accompagnato e lo accompagni tuttora. Sì, ma è Osvaldo che mi accompagna alla vecchiaia, al deposito, in questo momento. E diciamo che Osvaldo, eravamo giovani, giovanissimi, in tenera età ci siamo conosciuti, prendendo strade poi che si sono ricongiunte quando Osvaldo è passato a dirigere magistralmente la 20th Century Fox. Sì. Io avevo contatti anche con la 20th Century Fox prima che arrivasse Osvaldo, però il grande salto l'ha fatto effettivamente con questo signore che poi veniva dalla pubblicità. Un grande cartellonista. Quando vieni dalla base, caro amico mio, quando vieni dal brusio puoi diventare un grandissimo doppiatore, ma devi conoscere la base, tutti i lavori che si fanno, e lui è cominciato da lì. Aveva un padre che solamente dire De Santis nel cinema era una vera istituzione, ossia le foto di De Santis e il cinema italiano, suo padre era incredibile, lì ha vinto Osvaldino. Ha preso tante ispirazioni. È un figlio d'arte degno, insomma, quello sicuramente sì. Poi ne parleremo anche del papà. Senti Claudio, io non voglio disturbarti oltre, perché ti disturberò invece interamente quando sarai ospite qui a Voice Anatomy, perché è giusto dare lustro a una voce che ci ha accompagnato anche con il corpo, perché tu insomma stavi in televisione in tempi non sospetti. Io sono stato, la prima trasmissione dove sono andato ospite è stato da te e da Frizzi, quando ero all'inizio della mia carriera. Tandem, esatto. E tu eri nella mitica formazione L'Allegra Brigata. Dell'Allegra Brigata. Esatto. E comunque voglio dire, ti ringrazio, sicuramente ci sarò, vorrei fare i saluti a Osvaldo. Non è un epitaffio. No, non è un epitaffio, sta qui. Un abbraccio Claudiuccio. Bene. Ciao, urlami un libertà da questo telefono brutto. Radio 24! No! Addirittura! Ciao Claudio, vai piano! A presto! Questo era, mi sembrava giusto. Beh, Osvaldo, cominciare con dei professionisti, e quando ti gratificano poi i professionisti? È bello! E poi, ripeto, da vivo. Cioè, tu hai fatto un percorso importante. Parlava di papà. È vero, parlami un po' di papà. Che faceva nel cinema papà? Tutto, io lo so, però magari i nostri ascoltatori non sanno. Da papà, dove vieni? Un uomo di istinto, istintivamente è stato quello che ha, per esempio, spinto moltissimo la Dolce Vita, Ecco. Incidentalmente la Palma d'Oro della Dolce Vita ce l'ho io a casa. Ma dai. Quella di Cannes, 1960, sì, perché siccome mio padre era uno di quelli che più aveva creduto nel film, Angelo Rizzoli, che lo aveva prodotto, regalò la Palma d'Oro a papà. Ha riconosciuto il valore. Questa te la sei meritata, sì. E quindi mio padre è un uomo che ha sempre vissuto di istinto, come me. Io vivo di istinto, non vivo di calcolo. Come normalmente vivono le donne, sono più istintive, no? È un discorso molto femminile questo, che l'istinto è donna, perché la donna riesce sempre, questo non vuol dire niente nei tuoi confronti, ma è no, bello che un uomo si parli di istinto e sì, poi azzeccandoci, sbagliando alcune volte. Che sicuramente... Ma questo di sicuro, però so soltanto che ogni volta che ho cercato di fare una cosa scientifica, ogni volta che mi sono messo lì a guardare i GRPs, le audience, e ho fatto i miei calcoli, ho sbagliato. E invece quando sono andato a odore, quando a sapore... Quando sono andato da spettatore a vedere un film, quando ho sentito i brividi, quando ho sentito... E quando non li ho sentiti, a volte correndo dei grandissimi rischi, sono stato spessissimo sull'orlo del licenziamento. Per cui questi sono i criteri di cui ti fidi, insomma, quando scegli un film, è quello, l'istinto, assolutamente, l'odore, sì, il sapore, il brivido. Assolutamente sì. Come sta andando la stagione Fox 2016? La stagione Fox è andata, direi, piuttosto bene. Stiamo portando a casa dei buoni risultati. E che poi vi state preparando a cose, vogliamo dire Revenant, vogliamo dire, sì, il ponte delle spie, poi noi in è Italia è vero, perché siete DreamWorks, Fox, sì, c'è questo genere, co-branding, sì, molto importante, sì, sì. Noi siamo fortunati perché in Italia un certo tipo di film, un certo tipo di prodotto funziona particolarmente bene, quello che di solito all'estero non funziona. Perché significa che trovi anche il modo giusto per lanciarlo, perché insomma bisogna trovare anche... Tu vieni dal marketing e ne sai qualcosa, no? Grazie, sei molto... Sì, sei non è molto, solo fortuna, sei, hai detto fortuna e sei molto onesto, ma non è così. No, sei molto gentile, ma io faccio la mise en place, come sì, il però non cucino io, cucina un altro, faccio solo la mise en place, poi dopo capito. Però quando lo assaggiano decidono se piace buono o no, e devo dire che da noi io rivendico una maggiore intelligenza nella scelta del prodotto da parte degli italiani rispetto a molti altri territori nel mondo. Sì, perché c'è lì anche il periodo. Adesso, per esempio, c'è il sequel di Independence Day numero 2, è sempre sì, Fox. Uscirà poi in questo periodo o sbaglio? Quello uscirà il primi di settembre. Ah, per cui esce l'inizio della stagione. Come è uscito il primo? Sì, perché il 7 agosto abbiamo una cosa importante a Roma, a cui spero di avervi tutti ospiti. Che succede? Succede un'anteprima molto particolare in un posto molto particolare che adesso però... Non puoi dirlo? No, non puoi far così. Quando è questa data? 7 di agosto. 7 il 7 di agosto. Di agosto, sempre se tutto viene confermato, ma a quanto pare sì, tutto quanto è confermato, l'anteprima avverrà alle Terme di Caracalla. Sto cercando di pensare, non è un silenzio di pausa, ma è un silenzio per capire che tipo di titolo si può abbinare. Beh, che tu ci hai abituato anche a delle cose in netto contrasto, dove io ne sono testimone oculare, visto che l'era glaciale, ogni volta che c'è stata una presentazione importante c'è stata su un'isola in mezzo al mare, nonostante si intitolasse l'era glaciale. Ma la tua idea di coinvolgere e sconvolgere la vita di tutti i giornalisti europei per 4 giorni sei reputata sempre molto vincente, a prescindere dai talent utilizzati. Tu hai utilizzato l'intelligenza di mettere tutti insieme in una sorta di vacanza lavoro, un team building, come si dice in comunicazione, molto ma molto interessante, che ha dato i suoi frutti. A parte il film, che era sicuramente buono, ma la mise en place era, come hai detto tu, era ottima. Io quello faccio. Comunque adesso rimani qui con noi, un attimo di pubblicità e torniamo immediatamente fra le braccia dei nostri radioascoltatori. A tra poco con Voice Anatomy. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Voice Anatomy. Come promesso, rapidissimi, siamo tornati qui nei microfoni di Radio 24 Voice Anatomy. Vicino a me è sempre la D, che non è Anno Domini, ma amministratore delegato della 20th Century Fox, l'amico Osvaldo De Santis, uomo di grande sensibilità, per questo è qui. Non è un atto di ipocrisia né di suttidanza nei confronti di un ruolo così importante, ma lui di voce se ne intende perché viene da quel mondo, viene dal mondo del marketing, viene dalla base del suo lavoro fino ad arrivare all'altezza massima che potevi ricoprire. Senti, qual è stato il tuo più grande successo? Quale film che magari ti senti di avere il merito? Ma guarda, il merito è difficile. Sì, levato il merito del film, che sicuramente insomma, il film, tu c'hai inarritu, però... Però posso dire qualcosa che ti coinvolge in maniera molto diretta, un certo Borat. È vero, Borat ci hai creduto. Bello, bello, io non mi Borat, bello, che non volevo fare. Non avevo tempo, ti ho detto Osvaldo, non mi fa, non posso farlo, perché va bene, no, lo devi fare. Ma chi è questo? È un attore, ti preoccupare, lo lanciamo poi noi, questo è un attore che vedrai prenderà, Sacha Baron Cohen, attore inglese, bravo, hanno fatto, ma è faticoso, e c'era l'amico Tonino Accolla che come si è preso la responsabilità di adattarlo di sconvolgermi, perché abbiamo passato 10 giorni faticosissimi, perché ridare quell'anima a quel personaggio che poi mi è rimasto vicino, perché ormai da quel giorno non ho smesso di seguirlo in tutte le sue declinazioni di tutto il mondo, di tutte le lingue del mondo. E Borat è stato un grande successo, veramente ci hai creduto tanto, perché era sconosciuto ed è stato il paese dove ha incassato di più in Europa, credo che abbia incassato sì, di più. Sì, sì, assolutamente, ma noi, ti ripeto, in Italia abbiamo questo plus rispetto agli altri territori, secondo me, cioè noi diciamo, il pubblico italiano riesce ad amare dei film che forse gli altri amano meno. Borat è un tipo di esempio, ma un altro tipo di esempio, Leone per Agnelli, film difficilissimo. Film che in giro per il mondo ha incassato pochissimo, in Italia 5 milioni e 800 mila euro, negli Stati Uniti d'America, film che parlava di guerre americane in America, 9 milioni di dollari, quindi abbiamo praticamente fatto quasi più noi. Ultimamente, recente, Revenant, dicevi? No. Revenant è stato un grandissimo risultato. Gran Budapest Hotel è stato un grandissimo risultato. Sempre io parlo in Italia e non nel mondo, non nel mondo, fino a Storia di una ladra di libri. Bellissimo, sì. Bellissimo. Storia di una ladra, un film bellissimo che noi abbiamo in Italia, grazie anche al Ministero, alla GIS Scuola, è stato portato nelle scuole. Sì, sono quei film che fanno veramente capire al mondo, in maniera, ai ragazzi, in maniera più ludica, che cosa significa la diversità, che cosa significa il razzismo, che cosa significa. Ma non ha avuto la stessa accoglienza in tutto il mondo. No, ma tu sei riuscito a scovare quella, la cosa bella, che vieni dal marketing, ed eri vero. E capisci come gestire quel tipo di piatto, come ami avvicinarlo tu alla gastronomia cinematografica. Sì. Direi che vengo da un marketing di stomaco. Sì, ma quello vero, con poche parole americane, ma con risultati importanti, perché va bene dire team building, va bene dire one to one, va bene dire core business, ma va bene pure capire che cosa si sta proponendo, perché quello è stato... Sono grandi successi, è vero. Little Miss Sunshine era anche vostro, quel piccolo grande film, era Fox? Quello è un film Fox, sicuramente, che ha avuto un ottimo successo. Era in un mio momento di passaggio, perché prima nella mia biografia... E c'è un momento dove eri direttore generale, direttore generale della Sì, per di lo Sky. Startup, sì, direttore generale di Sky per lo startup 2003, fine 2005. Gli inizi del sogno, un po', gli inizi di questo percorso... Assolutamente sì. Senti, Juno anche, un altro piccolo grande film. Juno, altro piccolo grande film, sì. Esatto. Quello, devo dire, apprezzato meno in Italia che in altri paesi all'estero. Addirittura? Sì. Ah, sì. Certe volte il gusto personale esula, ma tanti film. Invece sono stati dei casi in cui per te significava grande successo e poi si è rivelato invece un flop gigantesco? Cioè, dove hai perso con lo stomaco? C'è stato un momento? Sì, sicuramente ci sono stati dei film... My Name is Khan, meraviglioso, un film che io ho trovato, ho amato in una maniera incredibile. Forrest Gump dell'est, esatto, mondiale, esatto, sì, è vero, tu l'hai trovato, io l'ho trovato meraviglioso, bellissimo, meraviglioso. Anzi, ve lo consiglio, come tanto capita in questi microfoni, io vi consiglio, cercate Il mio nome è Khan, un film anche quello che dovrebbe essere presente in tutte le scuole, perché veramente il mio nome è Khan e non sono un terrorista. Sì. Lui deve incontrare da piccolo questo bambino autistico che poi da grande vuole incontrare il presidente degli Stati Uniti per dirgli il mio nome è Khan e non sono un terrorista. Straordinario. Una favola moderna bellissima, è vero. Io ho voluto vederlo e sono innamorato. Guardatelo, cercatelo, perché in DVD si trova assolutamente. Quello è un grandissimo film. Senti, voi scegliete, Osvaldo, le date di uscita? Siete un po' liberi dagli americani o comunque dall'origine del film come date d'uscita, oppure siete un po' prigionieri di certe... Sai, il mio lavoro dopo tanti anni ha subito delle mutazioni radicali e adesso sicuramente per cambiare una data, per cambiare un manifesto, un poster, io nasco creando manifesti e trailer per i film americani in Italia, perché ai tempi neanche si guardavano i poster originali. Certo. Le campagne venivano fatte ex novo in Italia e molte campagne italiane poi sono diventate campagne internazionali. Pochi sanno che per esempio per due Bond i bozzetti sono stati fatti in Italia. Siamo bravi, siamo sempre stati bravi in questo. Lo vero, siamo, da sempre. Lo siamo tuttora. Sì, però oggi hanno tagliato le gambe perché non permettono più di fare nulla. Salvo battaglia all'ultimo sangue, che io oggi mi posso permettere perché comunque ormai sto in una posizione, qualcuno mi dice sei in una posizione win-win, sì è vero e me ne approfitto. Però te ne approfitti in senso buono, sì, non certo. È che dici faccio il dittatore. No, assolutamente no, faccio quello che voglio fare. Dai forza a un artigianato italiano importante, esatto. Forte nel mondo poi. Certo, se oggi avessi avuto 50 anni e forse avrei dovuto contare fino a 3 e forse sarei dovuto scendere a dei compromessi ai quali oggi posso fortunatamente non piegarmi. Esatto, ma ti sei costruito questo nome e oltreoceano ti conoscono e sanno perfettamente che una tua scelta può essere vincente. Insomma, l'hai fatto, gliel'hai dimostrato, è per questo che sei qui. Dicono. No, è così, si dice questo in giro. Ma abbiamo ancora un paio di minuti, ma poi sarai con noi altri due blocchi. Che ne pensi della piattaforma 2.0? Ritieni che sia importante investire su questa nuova forma di comunicazione? Quali sono le difficoltà e le trappole che può nascondere la piattaforma 2.0? Guarda, non bisogna mai avere paura di nulla e soprattutto del nuovo. Il nuovo va accolto e curato, perché io mi ricordo quando nacquero le prime videocassette, parliamo ancora quando c'erano i tre sistemi, diversi videocassette, sì. Dove tutti dicevano è la morte del cinema, il cinema è finito, non c'è ormai non più c'è speranza, futuro. Non so, oggi purtroppo devo dire invece stiamo assistendo alla fine delle videocassette di Blu-ray, che però non stanno finendo, si stanno evolvendo, stiamo passando al digitale, stiamo passando alla i blockbuster, ce li ricordiamo i negozi, certo, di blockbuster, le catene, ok, certo. Ormai noi blockbuster ognuno di noi siamo ce l'ha noi, a casa, siamo noi, certo. Quindi il futuro va affrontato con serenità, non deve far paura quello che cambia. Qui mi sembra proprio sentire le parole di Steve Jobs quando la figlia gli ha detto a un certo punto che girava con questo Walkman al collo, dice ma che ce fai con quella catena d'acciaio al collo? Io ti metterò 1.000, 10.000, 100.000 canzoni in tasca, te le metto tutte in tasca. Erano questi i sogni che poi hanno fatto grande il mondo. Lui era un grande, assolutamente sì. E allora ci sentiamo fra pochissimo, torniamo sempre in compagnia con Osvaldo De Santis e questa bella camminata attraverso il mondo del cinema. Tra poco con Voice Anatomy. Tensione, sfida, traguardo, ripasso, rito, emozione, ansia. In poche parole, maturità. A Radio 24 torna la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 21 giugno dalle 21 alle 24 insieme alla cantante Chiara De Lo Jacobo. Notte prima degli esami, notte di aritmia. 3 ore in diretta con le voci dei maturandi, i racconti dei personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e i ricordi degli ascoltatori. La notte prima degli esami, una notte di passione. Info su radio24.it in collaborazione con scuola.net. Tutti i giorni dalle 14 alle 15:30 il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. 1 ora e mezza, 90 e minuti, mezza. Il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo, sempre su Radio 24. La passione si sente. Una settimana d'allenamento, poi la domenica ancora tutti convocati per il processo a caldo dei grandi eventi sportivi europei, olimpiadi, Valentino Rossi, la Ferrari, quest'estate nessuna pausa. Sono Giovanni Capuano e tutte le domeniche vi aspetto dalle 17 alle 19. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, vicino a me sempre Osvaldo De Santis, l'amministratore delegato della 20th Century Fox, ma un uomo di fatica della 20th Century Fox, non è l'amministratore delegato, sta sul pezzo dall'inizio, dall'imballaggio delle pizze, come giravano una volta il film, segue tutte le fasi di distribuzione di un film. Però al primo atto della nostra intervista abbiamo sentito l'amico Claudio Sorrentino, il Braveheart della situazione, il Mel Gibson, presto avremo ovviamente in diretta dai microfoni di Voice Anatomy. Adesso c'è un'altra sorpresa di un altro film che ha segnato la storia della 20th Century Fox e anche quella in parallelo di Osvaldo attraverso la stessa Fox. Sentiamo prima la musica che lo introduce. Adesso vorrei che tu prendessi l'amico Osvaldo per la vita e gli sussurresti queste parole, diglielo. Adesso chiudi gli occhi, Osvaldo. Ti fidi di me? Beh, che schifo. Beh, senti, diciamo una cosa, Pino. Buonasera a tutti. Francesco Osvaldo Pezzulli. Francesco Pezzulli, Leonardo DiCaprio, abbiamo sentito attraverso questi microfoni, intanto lo mando a quel paese che lui lavora in parallelo su una radio molto bella e molto importante, ci tengo a dirlo. Eccetera, senza ovviamente Radio DJ. Sì, va bene, a te o meno l'avrei detto con calma, non è che non la volevo dire. Guarda che il mio successo è quanto mai giusta nel caso di Osvaldo, perché cioè, io ti fidi ho di me. Piacere di lavorare con beh, lui sono 20 anni che si fida di me ciecamente, perché mi ha fatto fare 4 dei film più importanti della mia carriera e penso insomma anche del cinema. I titoli con lui ho fatto, mi ha scelto per Romeo e Giulietta, Leonardo DiCaprio nel 96, per cui la colpa è la sua, per cui è vero, Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann, meraviglioso. E lui Francesco mi ha fatto avere una delle più grandi soddisfazioni, perché mi sembra che te l'ho raccontato Francesco, ma quando venne a Roma Baz Luhrmann mi chiese di andare in un cinema a sentire il film e lo portai al Cinema Europa. Al Cinema Europa. Esatto, lo sentì e, che ha detto? E mi disse: ma che ma è straordinario. Parlava di Pezzulli. Tu sei sicuro, Osvaldo? Assolutamente sì. Non era l'altra attrice? Assolutamente no. Parlava proprio di Pezzulli. Non lui ha detto gli dare una pezza in faccia, ma non è Pezzulli. Se parlate sgana. Poi ho fatto, vabbè, Titanic lo sai, io ancora lo ricordo bellissimo, una bottiglia di champagne. Bravo. Con sopra Titanic scritto per festeggiare il grande successo del film. Ti ricordi, Osvaldo? Guarda, come no, quella è diventata, sai, una bottiglia da collezione. Panorama ne ha fatto un articolo su quella bottiglia. Ce l'hai ancora quella bottiglia? Eh beh, sì. sì, eh beh, sì che ce l'ho. Io ne ho trovato lo Svaldo e rubo qualche merchandise, qualcosa di... penso poi, una cosa di Rocky. Reggiti forte, Pino, però non essere invidioso, reggiti no. forte. Quanto sei... Il primo film 3D Avatar, ragazzi. Avatar. No. Senti, ma perché non vai a lavorare col Trio Medusa, che sono amici miei carissimi? Io devo parlare con loro per fatte fuori, amico mio. Ma non... Io non voglio. Guarda, basta la parola sola, basta lo dice a Linus e sono fatto fuori. E fatti dire, okay. Guarda, Linus è un grande ascoltatore insieme a Albertino di Voice Anatomy. Loro sono deliziosi. Non parlo fiano. Il film che, in cui DiCaprio ha preso l'Oscar, The Revenant, è sempre 20th Century Fox. Bravo, cioè, è vero. Film, bravo. Sono 20 anni insomma bravo. Di successo. Per cui lui ti ha dato lo startup su DiCaprio a questo punto. No, diciamo che non dimentichiamoci Tonino Accolla. No, Tonino grande Accolla, direttore certo. di questi no, film. No, anche perché fu Tonino a dirmi c'ho questa voce, tu che dici, la voglio provare, insomma fu un lavoro di equipe, assolutamente di equipe, di squadra e però l'input, la scintilla è partita da Tonino. Tonino Accolla, io ho benedetto, è un modo per ricordarlo, ma è vero, è vero. La verità, in verità non ce ne sono mai due. No, eh? Ce n'è sempre una. Hai capito, Pezzulli? Insomma, continuerai a lavorare per la Fox qui. Per te la Fox continua. Fantastico, per me è un sì. Ma forse dovrebbe arrivare anche Avatar 2, dicono. Perché già si mette il cappello sul film. Dai. Francesco. Francesco. Dai. Potrebbe essere un altro successo. A parte che su Revenant non hai faticato tantissimo, quello gli hanno tagliato le corde vocali dalla prima scena. Era molto difficile, Pino, era molto difficile, ma tu lo sai. Lo so, che era... infatti cerco di prenderti in giro, però hai fatto un lavorone perché hai dovuto parlare sempre tutto il film così. È stato un dramma, te l'orso ti ha massacrato dopo 10 minuti. Quando ho visto il film, che ho avuto il piacere anch'io di doppiarlo, ho detto vai Pezzulli, mo adesso sa fare i suoi, perché ti tira fuori una voce vera, che fa freddo perché stiamo sotto 30 gradi, per cui la voce quando fa freddo così deve uscire in un altro modo. E Massimo Giuliani, devo dire che ci ha preso, è stato un gran lavoro con Massimo Giuliani sotto braccio, anche perché è stato difficile, cambiavano l'adattamento ogni giorno, le scene Iñárritu o Iñárritu, non lo so, Iñárritu ci tiene, Iñárritu ci tiene, che ne sai, tu lo conosci tu Iñárritu, ci tiene, ma non lo sai, è venuto anche a Roma, ma smettila, ma non mi dica che poi lui è andato al cinema, ha detto mannaggia insegno che mi chiama sempre Iñárritu, sei incazzato moltissimo. Beh, d'altro canto, quando hai incontrato Fox, sì. Tu dicesti ciao Jamie, lui ti disse ciao Puino. Puino. E lì ho detto ciao Gemai, perché non ho capito perché mi chiama Puino, perché Franco Nero gli ha detto lui è il tuo doppiatore, ha fatto, oh, come si chiama? Pino, lui ha detto allora Puino, ha detto non va a cagare Gemai. Vabbè, è bello come il sole era. Vabbè, mia moglie si è presa lì nei miei paresi a destra quando mi ha fatto la fotografia con Jamie Foxx. Va bene, ma non parliamo di questo. Oh, Pezzulli, torna al tuo bambino con la varicella. Bravo, sono inchiodato a casa, però insomma, causa forza maggiore, è anche piacevole stare con lui. Ma tu non l'hai presa, l'hai già vissuta da piccolo? Io già la varicella l'ho avuta, però abbiamo passato adesso il primo figlio, l'ho già avuto, primo figlio doppiatore, il primo figlio doppia. Già, ma sì, ma telefona dal telefono azzurro per fare qualcosa. Come ti doppia, c'ha un anno, cioè. Fa un personaggio in Finding Dory, il nuovo film di Nemo della Pixar. Sì, ma fa una tartarughina, una cosa molto carina. Stai parlando di un'altra casa cinematografica, mo, perché Osvaldo è uno sereno e tranquillo. Non ho detto il nome. L'ho detto io. Dai. Ma hai fatto dirlo. Ma va bene così, grandi successi ovunque. Pezzulli, ti voglio bene, lo sai. Un abbraccio grandissimo. Un abbraccio grande, presidente. Grande Osvaldo. Ciao Francesco, ciao. Un abbraccio. Ciao Francesco. Osvaldo, ciao. Che ciao. Persona carina. È entusiasta proprio. Sai, Francesco è straordinario. Merita veramente. Ma devo dire che è un ambiente. Come vivi? Pensi che è un valore aggiunto del doppiaggio italiano, Osvaldo? Tu sei stato uno molto vicino anche a questo. Tu ci tieni, scegli le voci insieme ai direttori. Le avaglio, le contrasti, eccetera. Però sei d'accordo che è un valore aggiunto? Ci sia un legame fra il doppiaggio e il successo di un film? Ma guarda, basta vedere, ripeto, il risultato di alcuni film in Italia che altrimenti senza il doppiaggio non sarebbero esistiti. Cioè il doppiatore, il cinema americano dovrebbe fare... Al su Hollywood Boulevard dovrebbe mettere una stella ai doppiatori italiani, perché se i film, adesso diciamo americani, ma in genere se il film non di lingua italiana ha un grande successo, sicuramente lo deve anche al doppiaggio, a volte di più, A volte di meno. Cioè, è una traduzione. Però, il doppiaggio può essere fatta bene o male. Mi dispiace, caro signor doppiatore, rifiuto questa definizione perché casomai è un adattamento. Un adattamento, non le chiedo può scusa, essere una traduzione. Signor amministratore. No. Amministratore no. Condominio, sembra così. È l'amministratore del palazzo della Fox. Sì, infatti a me tutti mi chiamano Osvaldo perché... Osvaldo, è vero. Dire, non... Ma tu sei sempre presentato così, è vero. Io, così mi ha chiamato mamma e papà. E sì, è vero, ma quando si entra in sala la prima volta, Osvaldo, ciao Osvaldo, pensavo che eri un amico di Tonino Accolla, eri amico sicuramente, ma non sapevamo nessuno che eri l'amministratore delegato. Ma se io ho un complesso, io sono terrorizzato dall'idea che le persone mi giudicano per quello che rappresento e non per quello che sono. A me lo dice che devo portare sto corpo perfetto in giro. Osvaldo, sta risata fa capire a tutti che non è così. No. È bello questa cosa, è vero Osvaldo. Per carità. È vero, uno può essere valutato magari, ma è giusto anche valutare una persona per quello che ha costruito nella sua vita. Fa parte del fascino poi della persona. Insomma, se è riuscito ad arrivare in un ruolo così importante, molto probabilmente è degno di nota a livello anche di cervello, non soltanto fisicamente. Per cui quello è che giusto. Quello che dici è molto bello, ma secondo me non è molto esatto. Basta guardare... Adesso non vorrei farmi dei... Vai che c'è Cruciani che magari si sta ascoltando. Non vorrei farmi i politici come nemici, ma basta vedere certi politici dove stanno e quello che valgono. Esatto, va bene. Chiederò all'amico Giuseppe Cruciani di farti la telefonata, almeno lì poi di quello che vuoi. Anche qui, per carità, ma lì sei più tranquillo. Signori, ancora un altro blocco, come si dice tecnicamente, insieme a Osvaldo De Santis, per poi ringraziarlo e veramente grazie di questa bella chicca diversa sul mondo del cinema, sul mondo della voce nel cinema. Tra pochissimo con Voice Anatomy. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Fino al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Il 19 giugno, dalle 23, non perdere lo speciale ballottaggi delle elezioni amministrative 2016, con le voci dei protagonisti e gli approfondimenti dei nostri inviati, per seguire in tempo reale l'andamento degli scrutini. E lunedì 20 giugno, appuntamento nei giornali radio per l'aggiornamento in diretta dei risultati. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Voice Anatomy. Con questa musica meravigliosa di Stefano Mainetti, diciamolo, perché Stefano Mainetti è un grandissimo compositore, abbiamo presa in prestito come sigla di Voice Anatomy. Ricominciamo quest'ultima passeggiata sotto braccio a Osvaldo De Santis. Senti, che ne pensi della cinematografia italiana? Di adesso, adesso parliamo proprio dell'Italia e della sua produzione. Guarda, io pur ringraziando mensilmente la bandiera americana, comunque continuo ad essere un amante del cinema italiano. Sì, decisamente. Cioè io se devo scegliere tra andare a vedere un film italiano e un film americano, vado decisamente a vedere un film italiano. Questo ti fa onore? No. Perché de gustibus. E cosa manca però a questo punto al cinema italiano per essere esportato degnamente? A parte i grandi successi, Tornatore, Sorrentino, eccetera, che si sono guadagnati l'attenzione d'oltreoceano. Guarda, io credo che sia un discorso molto molto ampio, perché noi apprezziamo di più il film americano, ma anche perché noi siamo dentro una cultura americana. A noi sin da bambini ci incominciano ad insegnare gli Stati Uniti d'America, le loro città, le loro cose, eccetera. Gli americani sono totalmente ignoranti su di noi. Se togli quei piccoli gruppi, di cui poi molti sono nostri amici, che vivono tra Los Angeles e New York, che non sono città americane, perché chi conosce l'America, certo, non è sa quella l'America. Che quella non è l'America. L'America è l'Iowa. Allora, quando tu parli agli americani, quelli veri, dell'Italia, fanno confusione assolutamente su tutto. Lo sappiamo, sono convinti che loro hanno inventato la pizza, sono convinti che loro sono nati lì, quella è casa loro. Sì, esatto. Poi vivono un complesso di superiorità così innato, e quindi gli manca anche quel minimo di base culturale per riuscire a capire certi film nostri, e poi fondamentalmente sono disinteressati a tutto quello che avviene al di fuori dei loro confini. Mentre noi sviluppiamo una curiosità, un'attenzione per quello che c'è dietro, loro no, perché poi tutto quello che non è americano comunque è americanizzato, perché o lo comprano o lo fanno diventare americano, perché sì, perché sono bravi nel marketing, però bravi nel marketing comunque, loro hanno un sasso che c'ha 100 anni, lo fanno diventare un punto di... Mi ricordo quando stavo sulla carrozza a New York e ci indicavano, ecco lì c'è stato seduto il bambino Malcari, il ragazzino di mamma ho perso l'aereo, lì ha preso il caffè Meg Ryan con Tom Hanks, cioè valorizzano certe cose, noi abbiamo la storia vera e non riusciamo a valorizzare. Serve un direttore marketing come te anche in questo. Non lo so, io incidentalmente mia scuola è stata Istituto Tecnico per il Turismo, ecco, che l'ho fatta per un solo motivo. Eppure poi il ministro dei beni culturali, con tutto rispetto del bravissimo Nicola Borrelli, che c'è adesso, non vogliamo far prendere il posto di nessuno, dico, però lui è direttore generale, non è il ministro, cioè Franceschini, però ecco, un uomo come te che viene dalla base, e da quella base continua a rendere spettacolare la propria vita per renderla spettacolare per gli altri, sarebbe bello gestire l'Italia con un bravo direttore marketing, o no? Ah beh, non devo dirlo io, voglio dire, quando a breve andrò in pensione mi metto a disposizione gratis. Facciamo una lista civica. Se qualcuno... No, non voglio entrare in politica, non so. Voglio sempre lavorare al lato. Consigliere, allora mi presento io e tu mi parli all'orecchio. Va benissimo, dirò che ci siamo. Il mio ghostwriter. C'è una nazione che sta nascendo e sta crescendo bene nel mondo, nel cinema, a parte l'America ovviamente. C'è qualcuno tipo la Francia, la Germania? Ma sai, la Francia non è che sta crescendo, la Francia c'è sempre stata. C'è sempre, di più, però. Ecco. È sempre cresciuta. E loro hanno. Sai che c'è? È che a volte noi produciamo un certo numero di film di cui solo pochi poi in realtà vanno nelle sale e in cui soltanto le eccezioni poi fanno incassi al botteghino. Dalle altre parti si produce molto di più, forse si produce più selettivamente. C'è anche una legge che li aiuta, magari in Francia, dove una certa percentuale di film devono essere assolutamente francesi, proprio per legge. Da noi invece questo non c'è, magari. Questo, diciamo che mi fai delle domande molto interessanti sulle quali... Sì, sì, va bene, però c'è una situazione già che ti può aiutare. C'è un'altra domanda? Sì, c'è un'altra domanda. I confini delle Marche. Senti Osvaldo, le innovazioni e sviluppo su cui state lavorando, ce ne sono in futuro? Cioè state lavorando su qualcosa? Guarda, lo sviluppo è costante, cioè si vive sempre 3-4 anni in avanti. Sei già nel 2020 tu? Guarda, non ci sto, però lo vedo. Già lo vedi? Eh sì. Ah, adesso ha cambiato pure mestiere. No, ma è normale in tutti gli ambiti. Cioè io, ridendo, dico sempre che faccio il cinema perché in realtà sono un marinaio. Sì, Perché? E perché puoi fare il marinaio solo se hai un lavoro che ti permette di farlo, perché altrimenti non puoi fare il marinaio. Ma mi piace molto guardare a quello che succederà, e se tu vedi quale sarà l'evoluzione delle auto che oggi noi abbiamo, tra 5 anni non ci saranno più. Sarà tutto quanto superato, le macchine cammineranno da soli, calerà drasticamente il numero degli incidenti. Che signori, attenzione, qui stiamo svoltando dal mondo della voce, andiamo al mondo futuribile e futurista di Osvaldo. Il futuro è bellissimo, quello. Cioè la mia passione sono i neutrini, tu non hai idea. La mia passione sono i neutrini è il titolo di un film bellissimo. La mia delusione quando è stato detto che i neutrini non andavano più veloci della luce, come si era creduto in quel momento lì, e quindi crollavano tutte le teorie sulla fisica eccetera, invece hanno detto no, hanno pari velocità. È stata una grande delusione, la mia più grande esperienza. Più di una storia d'amore andata a male, insomma. Più i neutrini danno. E devo dire che i neutrini sì, mi intrigano parecchio. Ecco, prima ti ho messo in difficoltà io con una domanda su una legge, eccetera. Tu adesso mi stai mettendo in difficoltà con una situazione scientifica che voglio circunnavigare e uscirne dritto dritto. Quali sono le tue altre passioni, Osvaldo? A parte, vedete, il cinema, che è una passione, si vede che lo ami profondamente in tutte le sue declinazioni e meandri. È la mia vita, la ci sono vita. Nato mio papà era, esatto, nel cinema, ma mia mamma pure, mio nonno prima di mio padre. Loro erano direttori di produzione, scenografi, che cos'è? Scenografi, viene dalla scenografia la mia famiglia. Mio nonno Scipione l'Africano ai tempi del muto. Ma pensate, quindi scenografia che poi l'abbiamo insegnata in tutto il mondo, parte da lì. Scene e costumi nascono qua. Assolutamente sì. Io quando ero piccolo passavo gran parte del mio tempo in un'attrezzeria teatrale, che credo sia uno dei posti più belli che per un bambino ti puoi immaginare. Per cui da Rancati. Rancati era uno che l'attrezzeria. Pier Mattei. Ancora prima il Teatro Valle. Delle cose, devo dire, veramente sono stato molto fortunato nella mia vita. Sì, però è colto bene, perché certa gente respira quell'aria ma poi fugge o sdirazza da un'aria familiare di questo tipo. Tu invece ti ci sei immerso dentro e hai preso il bello e la parte romantica. Io credo che ti sta sentendo parlare, sente che c'è un amore profondo per quello che stai dicendo. Non c'è il lavoro, la professione, l'amministratore delegato che fa i consigli d'amministrazione, che decide a tavolino questo, quell'altro, ma c'è un uomo che gira, va a teatro, va a cinema a vedere soprattutto i film degli altri, viene in sala, discute col direttore, con l'adattatore, col traduttore, cioè tu segui tutte le frasi e lo fai, come hai detto nel primo minuto insieme a me, con la pancia. Sì, perché io mi devo divertire. E poi ti piace pure mangiare, questa è un'altra cosa, poi io lo questa so. Questa è una cosa meravigliosa. Tutto di pancia fai. Questo sì, sì. Fai sì, tutto sì, di pancia. Questo sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Altri hobby, insomma, a parte il cinema, ti avevo fatto questa domanda. Tutte le cose belle. Tutto ciò, il viaggio, il mare, mare, montagna, mare o montagna? Mare d'estate, montagna, montagna d'inverno. Inverno, sono lago. Scontatissimo. Sì, eh? Il lago devo dire che mi dà un po' tristezza. Sì. Ecco, sinceramente, questa staticità fa un po' paura. Io non sono un nostalgico. Ecco, io per esempio sono uno che... Sei romantico ma proiettato al futuro? Udite, mm-hmm. Non amo troppo leggere. Eccolo, ma vedi. Ho il coraggio di dirlo. Sì. Però sono un super appassionato di audiolibri. Ah bene, quello devo dire anch'io. Adesso è un po' di anni che li faccio insieme alla Emons. Gli audiolibri mi accompagnano. Io adoro guidare. Ho fatto 4 anni fa la Mille Miglia. Questo non lo sapevo. Ho i brevetti XAI. Centro sportivo automobilistico, ho fatto la scuola di Harry Morrog a Vallelunga. Siamo sempre un film di Woody Allen, ma sei capace a fare fai tutto, fai. No, faccio quello che mi appassiona. È bello. Quello, senti, devi essere sincero, qual è il film che ti è piaciuto di più? Qual è il tuo film? Il tuo film, anche se non è della Fox, c'è un tuo film e dici, ecco, questo mi rappresenta, questo mi piace, mi assomiglia, è quello che vorrei essere, quello che vorrei. Un film che non è stato fatto. Non è stato ancora fatto? No. Non sei ancora affezionato? Un film tratto dalla poesia di Totò a Livella. Per cui c'è un discorso che... sociale, politico, culturale enorme. Perché... Sì. Per me Totò è Totò. Tu di dove sei di origine? Sei Romano di Roma. Romano di Roma, anche papà, tutti papà, di Roma. Nonno, nonni, tutti quanti. Generazione. Tutti quanti, non ti dico la squadra perché è uguale alla città dove sei nato. Eh sì, è ovvio. Sì. Qui c'è un sì. po' di ironia nello sguardo. Voi non potete vederlo, ma mi sta guardando. Vabbè, come dice d'altronde, nessuno è perfetto, no? Sì, esatto. Osvaldo, senti, io ti prometto, e promettilo tu, che tornerai magari per presentare dei film importanti con i doppiatori o magari con gli attori, perché tu hai conosciuto, c'è tante cose che non abbiamo detto, il tuo rapporto con i registi famosi d'oltreoceano e anche quelli europei con cui tu hai condiviso momenti molto importanti. Quello sì, ho avuto questa fortuna. Per cui raccontarci come sono nella quotidianità non è male. Ho anche cucinato per qualcuno di loro. Anche questo hai fatto. Ma questo è bello perché tu metti a proprio agio le persone e poi, come mi dicevi prima di cominciare il nostro incontro, mi hai detto le persone grandi sono le persone più semplici, sono le persone più umili. Sicuramente sì. E tu ne hai dato un grandissimo esempio oggi, Osvaldo, e lo dico senza ipocrisie. Tanto lei la classe dei 5 la devo fare per forza comunque, per cui non è per questo che ti sto parlando in questa maniera. Osvaldo, grazie e a prestissimo magari per nuove avventure della 20th Century Fox. Grazie a tutti. E con voi ci sentiamo fra pochissimo con Voice Anatomy. A fra poco. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Fino al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Voice Anatomy. Bentornati signori e Voice Anatomy, torniamo nella parte artistica della trasmissione. Normalmente apriamo sempre con un attore doppiatore, ormai siete abituati, siamo intorno alla 40ª puntata e allora siete avvezzi a quello che accade attraverso questi microfoni. E al mio fianco, alla mia sinistra, c'è un giovine, ma giovine. Beh, neanche tanto devo dire. Un giovane, un ex attore giovane, e io adesso ve lo racconto e poi vi spiego chi è. Una cosa che poi io scopro tramite i nostri bravissimi autori, tante cose che non so dei miei amici. Allora, tu sei figlio di un generale dell'esercito e sì, di una casalinga che io conoscevo, alla quale voglio un sacco di bene, insomma. Sì. Sta vicino a mia mamma adesso, io lo so. Sono lì. Sei figlio di un generale dell'esercito. Esatto, sì. Non diciamo ancora il tuo nome, bellissimo. Per cui, ma hai viaggiato? Tu dove sei nato soprattutto? Sono nato a Roma, quindi. A Roma. Ho viaggiato più per lavoro che per peraltro, sì, peraltro, sì. Che normalmente sai quando sei figlio di un carabiniere in esercito girano, li spostano. È vero. Io ho avuto la fortuna di abitare sempre a Roma. Okay. Quindi la voce da uomo gli è cambiata, madonna. Mi ricordo mi chiamava Pino. Vabbè, è andata avanti così. Sei un attore a tutto tondo, perché non sei, lo diciamo, solo un doppiatore. Poi se non sei un attore non puoi essere un doppiatore. Assolutamente, ma no. Anche perché ho iniziato come attore. Esatto, e di conseguenza... esatto. Ed è proprio da lì che cominciamo. Se non faccio le domande precise che quel disgraziato di amico Mauro Meconi e Alessia Navarro mi guardano e mi uccidono. Ma io li conosco questi signori, però va bene. Vado subito con la prima delle tantissime domande. Allora Marco, inizi la tua carriera da piccolissimo. Sì, proprio piccolo, 5 anni in un film horror di Andrea, con Andrea Occhipinti, che adesso è capo della Lucky Red, era un attore all'epoca, sì. Ci ha fatto questo film con lui. Esatto, in realtà il mio esordio risale a State buoni se potete, con Johnny Dorelli, con la canzone di Angelo Branduardi, esatto. Che adesso sicuramente Alessandro, che oggi si sta sostituendo, si alternano lui e Valerio, Alessandro è molto più posato, molto più serio come tecnico del suono, a discapito del nostro amico Valerio che viene solo quando la Roma gioca fuori casa, insomma questa ti rendi conto della serietà. Non c'è, Radio 24, radio eccellente, e abbiamo queste realtà. Per cui c'era State buoni se potete, è lì il tuo esordio. Io ero vero. Sì, il bambino più piccolo, avevo 4 anni e mezzo. Va cercando qua, va cercando, esatto, là. È una colonna sonora straordinaria. Beh, uno startup fighissimo. Sì, sì, per caso ero lì per accompagnare mio fratello a un provino, invece gli agenti... Paolo. Mio fratello più grande, quello che adesso è ingegnere. Io non lo conosco, io conosco Paolo che è... Allora, stiamo parlando di Marco Vivio, ovviamente. Buongiorno Marco, scusami, piccolo particolare. Paolo Vivio è tuo fratello. Mio fratello, altro doppiatore. Altro doppiatore. Attore, insomma, eccetera. Noi abbiamo un altro fratello che in realtà non c'entra niente col mondo dello spettacolo, però è colui che ci ha instradato per caso, è stato il capostipite della dinastia di Vivio e poi si è fermato e adesso è ingegnere, quindi... Per cui tu hai accompagnato lui a fare un provino? Sì, ed ero piccolino, cercavano bambini dai 5-6 anni in su, io ne avevo 4, invece hanno preso me. Ma che bello. Poi l'altro film bellissimo è Tutta colpa, esatto, del paradiso con Francesco Nuti. E Ornella Muti, esatto. E Ornella Muti. E ancora mi riconoscono per strada per quel film. Beh, non sei cambiato tanto, è vero. Sono passati 32 anni, 33 anni. 37 anni adesso. Io ho 38 anni. È un macello. Sì. Non me lo dico qua, faccia, visto che ce n'ho 20 di più. Perdonami, ma un po' di tranquillità. È santa miseria. E ancora ti dicono, perché in effetti la faccia, un po' di barba che non avevi. Che non avevo, giustamente. Gli ormoni erano ancora... 6-7 anni non avevo ancora la barba. Erano ancora a riposo. E che cosa hai provato? Lì è stato il secondo film, ma è stato sì, lì eri protagonista assoluto. Ero protagonista, sì sì. Contemporaneamente ho fatto quel film e state scusami, Voglia di cantare, uno sceneggiato con Morandi, uno dopo l'altro. Ed erano due ruoli molto diversi, ma da bambino li vivi come se fossero un gioco, quindi è ce stato... l'hai? C'hai la canzone trovata? Me la metti un attimo, è bellissima. Che bella. Angelo Branduardi l'autore di questa canzone. Sì. Vanità di vanità. Bello, brividi, lasciala sotto Alessandro, grazie, sei molto più rapido di Valerio, sai, ti voglio molto più bene. E per cui hai avuto questo rapporto bellissimo con Francesco Nuti e Ornella Muti, sì. Film bellissimo, è stata un'esperienza, se vi capita di riprenderlo rivedetelo, sì, perché sì. È veramente un film romantico, bello, quello che ci ha abituato per anni Francesco Nuti, esatto. Prima di cadere in quella... folle depressione, questa malattia che lo sta accompagnando. Che ricordi hai di Francesco? Ricordi bellissimi. Io poi, quando sei bambino sul set, vieni coccolato da tutti e mi ricordo lui con me era sempre molto affettuoso, molto, molto paterno, era attento alle mie esigenze, se ero stanco, se mi annoiavo, se volevo andare a giocare, era molto attento e premuroso nei miei confronti. E poi era un gran calciatore, ma di questo esatto, parleremo, sì, perché sì. Anche tu non scherzi, sì. come calciatore. Senti, poi a 10 anni avevi già lavorato con registi importantissimi, esatto, ovviamente sì. Già una ventina di titoli, poi c'è Ettore Scola, La famiglia, sì. Cioè, esatto. Tutta robetta. E non stiamo ancora parlando ma... di doppiaggio, attenzione, non stiamo ancora parlando di doppiaggio, anche lì una carriera ancora luminosissima e agli inizi, fra virgolette, perché poi sì, dico quanti è iniziata. Film è iniziata presto anche quella con Ettore Scola e poi Vanzina SPQR. Io lo ricordo perché c'era mia zia dentro il film, che è la cicciona dei film di Sordi, la prima Erminia, Rossana Di Lorenzo, certo, come no, la sì, sorella sì, sì. Di Maurizio Arena, che era mio zio, eccetera. Per cui me lo ricordo doppiamente quel film, che c'era anche lei. Questo è un film leggero, ma è bello saltare da sì, Ettore Scola alla famiglia, da film d'autore a film, diciamo... Sono tutti belli i film, quando li fai con amore, certo, dai, esatto, ma sì, che sì. C'entra. E poi un altro film bellissimo, che io ancora ricordo, e chi l'ha visto lo ricorderà con grande affetto, che è Da Grande con... Esatto, Renato Bozzetto. Sì. Anche quello è un film che ha avuto moltissimo successo. Sì, e pur avendo una piccola scena, anche lì molti mi riconoscono tuttora. Ma tu sei il bambino di quella scena lì famosissima. Vedi la differenza, esatto. Non voglio mai parlare di me perché qui faccio l'attore, sì, il doppiatore, ma faccio un passo indietro. Però vedi la differenza bellissima. Io ho fatto 7 film che andranno in onda, l'ho già detto, per la serie I Dimenticabili di Rete 4. e a me mi riconoscono ancora per Carlo Vacca di mezzo destro, mezzo sinistro. Ah, certo, come no. Ecco, come ho capito no. La differenza. Ti riconoscono per La famiglia di Ettore Scola, Da Grande, tutta colpa del paradiso. A esatto. Me per mezzo destro, mezzo sinistro, dove ero Carlo Vacca, giocatore doppiato in Veneto da Sagliocca, doppiato, ma era all'inizio, parlo 35 anni fa. E dove Carlo Vacca è, ovviamente è Vacca Carlo, che insomma Vacca, questa certo è la filosofia è. Del esatto. Film, no, mi ha fatto ridere perché ti riconoscono ancora per questi film, a me per quest'altro. Insomma, una carriera a 1000 km/h. Esatto, sì, sì, sì. E parallelamente poi... Anche come l'hai gestita a quell'età tutto questo? Avevi una famiglia molto solida? Io ho una solida. Famiglia molto solida, solida, sì, mi è stata molto vicino, i miei genitori mi hanno sempre spinto a studiare prima di tutto e quello che veniva da un punto di vista artistico era un qualcosa in più. Un plus. Era un qualcosa in più che non doveva assolutamente farmi deviare l'attenzione dagli studi. Che tipo vita di studi hai fatto, Marco? Io ho fatto liceo scientifico e mi sono diplomato col massimo dei voti, poi ho iniziato l'università ma a quel punto diciamo il lavoro aveva preso il sopravvento. Sì. Beh, che ormai veramente a quell'età sì. Già hai fatto tutti quei film, dovevi esatto. Continuare soprattutto poi il doppiaggio, ho cominciato a sì, lavorare E tuo fratello Paolo, che avrò presto i microfoni, che adoro. È mio fratello, Paolo, anche lui. Anche lui ha iniziato per caso. Siete il diavolo dell'acqua santa, esatto, ha detto. Sì, tu sì, elegante, carino, eccetera. Lui è un mostro, non un mostro di bruttura, ma proprio ogni siamo volta molto diversi. Le botte che gli ho dato da piccolino, adesso però è alto 1,90, non conviene avvicinarsi più di tanto a Paolo. Sì. No, lui è delizioso. E poi per quanto riguarda il doppiaggio, invece a che età hai cominciato? E ho iniziato da piccolissimo, perché dovevo doppiare me stesso. Alcuni film che avevo fatto, c'era Vittorio Sindoni che appena mi vide alleggio disse: no, questo bambino deve fare anche doppiaggio perché è portatissimo. E da lì ho iniziato. Quindi, ovviamente, quando sei bambino doppi tutte le piccole parti dei bambini, però ho doppiato anche ruoli importanti. Perché... E poi quando sei piccolo impari prima la tecnica del doppiaggio, impari tantissimo. Ho avuto la fortuna di lavorare con anche lì dei mostri sacri del doppiaggio, dei maestri veri che mi hanno insegnato quest'arte meravigliosa. Senti, ma prima abbiamo ancora qualche minuto, ma anche due blocchi ancora a seguire. Però volevo sentirmi un contributo di Marco Vivio fra quelli che abbiamo preparato prima di scordarci quelli più importanti. Però c'è un Hayden Christensen di Awake, Anestesia Cosciente, tanto per cominciare a sentire la vocalità di Marchio, è un marchio di fabbrica, volevo dire, sto bene, però va bene così. Allora togliete il vino al conduttore e ascoltiamo un attimo questo contributo. Noi vogliamo sposarci. Clay, hai tutta la vita davanti. Sei sicura? Ascolta tua madre. Non voglio che metti a rischio la tua vita con un chirurgo mediocre. È un mio amico, io mi fido. C'è un fenomeno chiamato anestesia cosciente. Non dovrei essere già addormentato. Il corpo è sedato. Il paziente è pronto, dorme come un angioletto. Aspettate, c'è qualcosa che non va. Ma la mente... Qual è il problema? È vigile. Vi sento ancora parlare. Non so se ce la faccio. Qualcosa non va. Non può accadere. È solo la mia immaginazione. Che diavolo succede qui? Va tutto bene. Sam, aiutami! Non gli credere, ti sta mentendo! Cercano di uccidermi. Anestesia cosciente. Domani. Questa è la voce, volevo sentire il marchio di fabbrica di Marco, ed è questa la voce che racconta la fisicità, anche ti assomiglia molto alla tua voce. Sì, è vero, a te. È vero. A molte persone no, non è così, Sono, come si dice, incollato a... Esatto, a te stesso. Molte altre volte invece non c'è questo collante. Cui praticamente hai capito di fare il doppiatore, ma cosa ami di questo mestiere del doppiaggio? Amo il fatto che tu in un giorno puoi diventare un personaggio diverso continuamente, puoi cambiare personaggio, diventi appunto, questo era un giovane ragazzo ricchissimo che si ritrova a essere malato, ad avere una malattia incurabile, oppure diventi un supereroe, diventi un piccolo dinosauro in un cartone animato. Insomma, la meraviglia di questo lavoro è cambiare continuamente e immergerti, immedesimarti in personaggi diversi per mantenere poi la vita costante, insomma, esatto, con le persone più belle vicino, le amiche vicino. Esatto. Sei venuto accompagnato con una signora che alza la mano lì, insomma, stando, ma non so chi è, no? Tu la conosci? Sì, sì. La conosci bene? Sì, sì. Va bene, devo dire. Va bene, anche se dicevo anch'io non era carina questa cosa. Va bene, allora rimanete, oggi veramente compro una consonante. No, vabbè, stacco qui la radio. Per te Radio 24 finisce qui e io finisco. Invece no, il nostro rapporto non epistolare ma vocale con Marco Vivio continua. Rimanete incollati con l'orecchio ovviamente sulla vostra radio. Voice Anatomy, a tra pochissimo, grazie. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB+. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia, hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Voice Anatomy. Eccoci, come promesso, signori miei, al mio fianco, alla mia sinistra, Marco Vivio. Devo dire, nonostante la giovane età, quanti film hai fatto, Marco? Lo sai che non lo so. Ma no, dai, ma è possibile che noi, se non avessimo qualche biografo come Jenna, come la, esatto, la cosa del doppiaggio. Come doppiaggio, io non lo so. Tu lo sai che ne hai fatti più di 400? Accidenti. Sì, hai capito? Un numero incredibile. Tantissimi, sì. Ma tutto Dio, ma è possibile? No, e poi sono sempre, per fortuna, sempre in aumento, perché ovviamente sì, è still il growing. Lavoro nostro è, certo, in continuo divenire, per fortuna. Poi c'hai 20 anni meno di me, per cui a voglia mette in bacheca. Però più di 400, mamma mia. Cosa, e cinema? Cinema, quello lo sai, almeno quello? Sì, sì, sì. Quanti? Ah, film cinema, non nemmeno quello, lo so. No, giuro, vabbè, giuro, dai, veramente. Ma non è possibile, ma dai, più giuro. O meno... Ma io lo so che non ho fatto, l'ho detto, 7 dimenticabili, per cui... Ma come attore dici o come doppiatore? No, come regista, come, cioè, attore, come attore. Come attore, infatti, una decina, come attore. Come anche doppiatore, tantissimi. Serie televisive, importanti, sì. Dove hai fatto Orgoglio. Orgoglio, le prime tre stagioni che hanno avuto grandissimo successo. Sì. Lì ti ha dato una bella... anche perché quella è la popolarità. Esatto. Che certo non c'entra niente con la bravura, attenzione, meno nel tuo caso. Io lo dico sempre alle persone, perché ormai ti riconoscono anche se stai di passaggio in televisione, e poi ti dimenticano in due secondi. Però bravura e fama non è che detto che camminino insieme. Ma nel tuo caso sì, ringraziando il cielo, tu hai cominciato proprio per piccolo. Esatto. Non ti ha provocato nessun tipo di ritardo di rapporti fra i tuoi amici che giocavano magari a pallone? No, io ho sempre giocato a calcio, ho sempre fatto, non l'hai mai persa, la palla sempre. Anche quando andavo in tournée con il teatro riuscivo a mantenere comunque il passo con i compagni di scuola, ero... Per cui non ti ha creato nessun problema? No, perché no. Normalmente può creare questa cosa, cioè portare via tuo figlio in quell'età, invece di un campetto da calcio, metterlo al buio dentro una sala, ma i tuoi genitori... Io poi conoscevo mamma, una persona straordinaria, mi accompagnava, stava lì a fare garzetta, ad aspettare che finiva del turno. Che mamma meravigliosa. Per cui questo non ti ha creato nessun problema. Sì, so che sei un calciatore, sei anche bravo. Qualche volta ho condiviso con te quando ancora ce la facevo. Prima che il tendine d'Achille mi dicesse smettila, falla finita. E anche l'inizio di prostatite che ti dice basta. Può far derby del cuore, far derby della prostata, del femore. Non lo puoi più fare. Lui ci divide, la cosa che invece unisce altre persone. L'altra settimana è venuto Francesco Pannofino e l'amico Valerio, il tecnico del suono, che l'altro, non l'eleganza di Alessandro, ha detto: è la prima volta e se non dura ciali insieme. Ecco, questa è stata la cosa. Io ho detto veramente: questa trasmissione va in tutta Italia, anche fuori. Quindi, manteniamo una cosa fuori dalla regione. Noi, ecco, meno regionale. Ci divide questa cosa. La fede calcistica. La fede calcistica è l'unica cosa che ci divide, poi il resto ci unisce tantissimo. Si parla tantissimo di giovani nel doppiaggio, ma c'è secondo te un ricambio generazionale? Sta succedendo qualcosa oppure no? Beh, devo dire di sì, ci sono giovani, fasce d'età più giovani rispetto alle mie, ma anche vedo dei bambini molto, molto bravi. È chiaro, i bambini sono sempre merce rara, come sappiamo, appena un bambino viene scoperto e notato dai direttori, se lo contendono proprio con grande fatica. Non è facile, è vero. Non è facile. Una volta si utilizzavano le signore anziane per fare la voce dei bambini. Le donne facevano adesso bambini. No, insomma, adesso si tende a usare attenzione. Bambini veri, ed è sicuramente l'effetto è migliore, è sicuramente più realistico. Mi voglio sentire un altro momento. Anche James Franco hai doppiato. Esatto, questo sì. Film che è Camille. Sì, Camille. In realtà ho doppiato anche in una serie recente che era 22-11-63, una serie bellissima. Meravigliosa. È di Stephen King? Sì, sì. E noi sentiamoci questo James Franco. Che è facile avere un bel corpo quando c'è una bella voce così. Vai! Camille! Ah, eccoti qui, ti grasso! Allora non ti ho uccisa. È difficile che mi perda, soprattutto quando sono con te. E adesso? Camille, sveglia. Cosa vuol dire strana? Sta bene? Vuole continuare il viaggio, però c'è qualcosa che non mi convince. È ora di alzarsi. Camille! Voglio il bacio del buongiorno. Lei comincia ad andare a pezzi. Dovrei mettermi un po' di trucco. Sei molto carina. Mentre lui cerca di tenere le cose insieme. Tua moglie mi sembrava, come dire, provata. Lei è morta. Sì, ma poi quando torneremo a casa che cosa faremo? Non tornerò mai laggiù. Quella roba sulle lenzuola, che cos'è? Sembra formaldeide. Cosa c'è? Hai un buco qui dietro. Fa vedere? È un foro di proiettili. Non c'è niente di strano nell'avere un piccolissimo buco nella spalla. James Franco, Sienna Miller sono gli interpreti di Camille. Camille, bello, romantico. James Franco è un bell'attore. Sì, molto bravo. Tu hai conosciuto qualcuno di quelli che doppi? Sì, ho conosciuto Tobey Maguire quando... Ah, dai. Sì, sì, sì. E allora conobbi pure James Franco, che era meno famoso, perché sì, era... faceva l'amico di Peter, sì, Parker. Sì, Spider-Man. E eravamo io e Domitilla d'amico e lui è stato molto carino con noi, perché c'erano... uno si stupisce di questo, ma deve essere una cosa, sì, normale, santo, perché non, esatto, si è abituati noi. Le, esatto, persone più grandi sono, più dovrebbe essere umili. Vai. E c'erano Tobey Maguire e Kirsten Dunst, che erano sovrastati da fotografi, interviste, certo. Invece lui era quasi da una parte, in un angolino, perché non era famoso allora, certo. E allora si è messo con noi a fare delle foto, a scherzare con noi, è stato molto molto carino. Beh. E poi a distanza di anni l'ho doppiato e insomma adesso li chiamano, è diventato, dice, bello. James, è diventato, ti ricordi James di me? Franco, bello, adesso sei diventato James Franco, perché c'è, perché sta, c'è Marcolino tuo dietro. Senti, noi chiediamo sempre ai nostri amici attori, doppiatori, di leggere qualcosa che normalmente va a contrasto con quello che normalmente fanno. Cioè, Rodolfo Bianchi diceva, ha letto le istruzioni per la lavatrice, giù Pizzo, che so, Lazio Sassuolo in maniera sexy. Però l'altra settimana abbiamo fatto rifare all'amico Pannofino un momento del suo film, un film meraviglioso che è Forrest Gump, e devo dire che ha superato le 100.000 visualizzazioni, perché poi abbiamo questo sito su Facebook di Voice Anatomy che funziona tantissimo, anzi cliccatelo e un mi piace, mettetelo, che ci fa sempre molto piacere. Allora adesso di corsa Mauro Meconi è andato a prendersi un monologo, però questa volta tratto da un film che tu hai fatto. Eri giovane, eri ero giovane, giovane, perché sono la passati diversi anni. Questa è la prima trilogia di esatto, Spider-Man, sì, dove io ho fatto solo il cattivo, cioè l'uomo sabbia, l'uomo sabbia, sì, sì. Poi l'altro ho fatto quello che ha lucertola, vabbè, Lizard. Ho scavallato. Esatto. Poi c'è stato Jamie Foxx che faceva un altro cattivo che doppio normalmente. Io ho detto, mo' puoi fare tutti i cattivi dell'uomo ragno sempre te. Per cui... E allora ti facciamo leggere questo momento. Di qual è di Spider-Man questo? E questo è il primo. Spider-Man 1. Non sì, lo riprendi sì, l'amico per metterlo? Beh, Meconi, attore di grandissima umiltà, che va a favore dei suoi colleghi, la cosa buon più caffè, bella del mondo. Caffè. Buon caffè. Che cosa? Mi intervieni così, con la voce che fa campo. Gli mettiamo una musica un po' più che un momento d'amore o d'azione qui? Che cos'è? Un momento d'amore. D'amore. E allora qui... da Spider-Man 1 abbiamo la voce originale, ma anche se non la devi ringiovanire. Poi ti facciamo sentire qual era la tua voce nel film. Capisco. Adesso falla come la farebbe Spider-Man adesso, con un inizio di sciatica. Chi sono? Sicuri di volerlo sapere? La storia della mia vita non è per i deboli di cuore. Se qualcuno ha detto che era una bella favoletta, se qualcuno vi ha raccontato che ero solo un tizio normale, senza una preoccupazione al mondo, quel qualcuno ha mentito. Ma ve l'assicuro, questa, come qualsiasi storia che valga il racconto, è a proposito di una ragazza. Questa ragazza, la ragazza della porta accanto, Mary Jane Watson. La donna che ho amato fin da prima di cominciare ad apprezzare le ragazze. Vorrei potervi dire che sono io, quello accanto a lei. Beh. Beh. E dai, Spider-Man più maturo, più bello. Più adulto, sì. Sì, niente male. Te l'ho visto una lacrimuccia, un brividino. Una ragazza che si emozionava, ancora si emoziona. Questo è bello. Beato te. C'è mia moglie invece che mi dice soltanto api e basta, sta voce, bu, bu, bu, bu, bu. Capito? Cioè, questo si perdono queste cose. Scusate, utilizzo la radio in forma privata proprio per uno sfogo personale. Vabbè, ma lasciamo stare. Senti, adesso però ascoltiamoci il tuo Tobey Maguire originale. Di qualche anno fa, di qualche una anno decina fa. D'anni fa. Lo so, ma non l'hai fatto. Era bellissimo, sai, veramente emozionante. Poteva stare bene in ogni film questo pezzo. Beh, un bellissimo monologo, sì, una dichiarazione d'amore. Ma fatto con questa musicalità, qui parliamo di voce, e questa è stata una grandissima voce, dotata anche di bellissime intenzioni. Sentiamoci un Tobey Maguire invece originale, sempre con la voce di Marco Vivio. Qualunque cosa la vita abbia in serbo per me, non dimenticherò mai queste parole. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. è il mio talento e la mia maledizione. Chi sono io? Sono Spider-Man. Ah, così mi finisce. Sono Spider-Man. Beh, bello. Questo è il finale del film. Sì. Lui... Il primo film. Sì. Che poi il peccato che molta gente magari non sa, che noi doppiamo, quando doppiamo, va a 24 fotogrammi. E la velocità della pellicola al cinema. Quando va su DVD o su VHS, quello che era, va a 25 o Blu-ray, 25 fotogrammi. Cioè va più veloce, per cui la voce si alleggerisce viene il film. Infatti uno fa tante volte una fatica enorme e poi ti ritrovi che parli un po' più da paperino. è vero. E questo, insomma, a volte è un peccato. Va bene, allora rimanete ancora con noi, ovviamente, e chiudiamo questa puntata di Voce Anatomy oggi accompagnati dal doppiatore e attore a tutto tondo Marco Vivio. A tra pochissimo per abbracciarci nel nostro finale. A tra poco, Voce Anatomy. Anatomy. Eccoci di ritorno, ultimo blocco della trasmissione di domenica 19 giugno insieme a Marco Vivio. Stiamo saltando fra cinema, teatro, Marco? Teatro anche. Teatro ho fatto sia quando ero piccolo, spettacoli molto importanti, Vita di Galileo, tournée in Europa, Mosca. Vita di Galileo, la regia era Di Scaparro, Maurizio Scaparro. Sì, con Pino Micol, io ero Andrea Sarti. Ma pensa te. Sì, sì, uno spettacolo bellissimo. E da minorenne so che non puoi stare in scena fino a una certa ora, puoi girare, eccetera. Insomma, sì, ma è un problema legale, sì, che non ce ne frega niente, esatto. Quello che state No, l'importante, ecco, io avevo sempre i professori dietro che mi facevano seguire il programma pure scolastico. Pure in tournée. Sì, sì, è vero. È vero. È bellissimo. Quanti anni avevi quando hai fatto Vita di Galileo? 10 anni. Dai 10 ai 13. 3 stagioni di... Cioè, tu sei come... Meno male che non sei come rockstar, sennò a 27 anni arrivederci e grazie, perché veramente hai raccontato... Stai raccontando tante cose. Sì. Poi hai fatto bene, secondo me. Un po' hai frenato con la televisione, hai aumentato col doppiaggio, sì. Rallenti col doppiaggio, aumenta in televisione. Però il teatro non lo devi abbandonare. No, no, però no. Ma anche di recente ho fatto uno spettacolo... Esatto. Con Alessandro Prete, Il sogno, sì, di una vita, e forse lo riprenderemo. Insomma, il teatro è un amore che uno che mi accompagna per tutta la vita. Insomma. Quello è il vero mestiere dell'attore, esatto, sì. Senza nulla togliere al cinema, nulla togliere al doppiaggio, alla pubblicità, a qualsiasi altro. Però il teatro è dove veramente sei nudo, dove la gente ti sceglie, dove la gente toglie la macchina da sotto casa, dal parcheggio, che non sa se ritroverà, lo devi cercare vicino al teatro, aver prenotato il biglietto. Esatto. Poi uscire da lì, riprendere e andare a mangiare fuori, che si è visto una cosa brutta, ti odierà per tutta la vita. E invece non è così. Abbiamo altri due contributi, diciamo, a Rumegoni, visto che lui se ne occupa e allora non vuole che il suo tempo sia stato vano, e allora li facciamo ascoltare. Uno, perché mi ricorda anche un film che abbiamo fatto insieme, che è Sotto Assedio. Tu facevi il bellissimo Channing Tatum, lo segui tu? Channing Tatum spesso si alterna anche lì, sì. Dipende dove va. Dipende dove va. Tanto le voci sono belle queste della tua età. Questo era Sotto Assedio, il film che io facevo il presidente degli Stati Uniti, che era Jamie Foxx. Esatto. E tu il bel Channing Tatum. Ascoltiamone un momento. Ora mi stai ad ascoltare, guardami. Mi dispiace di non essere venuto al tuo talent show. Ci tenevo, mi dispiace. A me no. Beh, peccato, però forse questi ti piaceranno. Sono passi per la Casa Bianca. Tuo padre ha un colloquio di lavoro per i servizi segreti. E da paura, John. Continuiamo con John? Sì. Ok. John Cale, perché vuole entrare nei servizi segreti? Non credo ci sia un lavoro più importante che proteggere il presidente. Lei ha avuto 3 assegnazioni in Afghanistan. Ha ricevuto una Silver Star per aver estratto un caporale da un Humvee in fiamme? Sì, signora. Perché? Ero un po' in pensiero che lì dentro avesse troppo caldo. Non deve guardare l'agente Todd. Vediamo le valutazioni dei suoi superiori. Il sergente Cale dimostra scarso rispetto per l'autorità. Il sergente Cale ha un notevole potenziale, ma sembra determinato a non svilupparlo. Se l'agente speciale Todd continua a sghignazzare, va a finire che inizio a guardarlo. Ti hanno detto il posto? Sì, credo di essere in lizza. Beh, sai com'è, ne parleranno tra di loro e... Oh, sei stato bravissimo a non prendere manco una parola del presidente degli Stati Uniti d'America, Mauro. L'ha fatto apposta. Scusate, ma ogni tanto io so che sono il conduttore, so che devo fare dei passi indietro quando sono i miei colleghi, so che devo essere soltanto colui che veicola la gente accompagnandola nei meandri della declinazione della voce. Ma santa miseria! Non film che abbiamo fatto insieme, sono il presidente degli Stati Uniti! Bella la voce di Marco! Bellissima. No, non ti sento, non ti voglio ascoltare. Sto leggendo il tuo labiale dall'altra parte del vetro. E la dottoressa Navarro non ha neanche ascoltato un attimo di quel film per dire: ma manca una voce da come. Lui era il protagonista, certo. Scusa Marco, ma sono dei momenti che io devo continuare a convivere con loro, chissà, per i prossimi decenni. E vorrei che ogni tanto. Difenderti, no, mi facessero un regalo. Santo Dio, giusto. Non è che all'ultimo mettevano Uomo 3 che diceva da questa parte per la Casa Bianca, no, era il presidente degli Stati Uniti d'America. Chiedo scusa, devo far sentire anche l'altro? Perché altrimenti, no, bene. Senti, ma che cosa, che amico mio, che vuoi fare da grande soprattutto? Adesso da grande che vuoi fare? Faccio il mestiere più bello del mondo. È vero. Vorrei continuare. Sì, eh? Sì. E adesso st'estate? Progettualità? No, non un po' tournée. Di vacanza ci vuole. Vacanza sì, tutta però la vita. Insomma il doppiaggio abbiamo va avanti sempre, serie, ripeto, pure luglio le serie vanno avanti, sì, sì, sì. Netflix. Anzi, ultimamente si è parlato anche di lavorare ad agosto, insomma io sì. Cerco sempre di ritagliarmi un piccolo spazio anche per no, ma anche per dare per un vivere. Po' di novità per vivere per ridare un po' una novità a quello che uno fa, perché vero, altrimenti rischi diventa, poi si rischia di essere esatto. Risucchiato in un vortice e... timbrare il cartellino con tutto rispetto per chi lo fa, perché lo facciamo anche noi. Però da questo punto di vista conviene essere sempre freschi, almeno uno dà una novità in sala, anche perché a casa ormai il giudizio è sempre molto importante della gente. Sono molto sì. Più attenti, le persone sono molto più attente a quello che succede nel nostro mondo e ci tengono che sia fatto bene, perché adesso poi si va molto di corsa. Tu lo sai. Molto di corsa, il problema è quello che a volte non hai il tempo di lavorare in modo adeguato, a partire dai dialoghi, a partire dalla preparazione, che anche quella è molto importante di un film, perché... ti ritrovi in sala che non hai una struttura adeguata per poter dare il meglio. E soprattutto queste serie, perché ormai escono in parallelo con l'America, loro vogliono che assolutamente esatto, noi usciamo sì. Insieme a loro. Cioè, io sto seguendo Il Trono di Spada adesso, non ci sto capendo niente, non ne posso neanche parlare perché filmi adesso dei diritti dove sì. Tu non puoi dire quello che hai visto, esatto. Che hai sentito, sennò rischi l'arresto immediato se dici qualcosa che non devi dire. Ci ascoltiamo l'altro momento, così abbiamo messo tutti i contributi che il dottor Mecconi ha messo sotto la supervisione della eccelsa Navarro. Lo faccio per prendere in giro perché loro fanno delle schermaglie dall'altra parte del vetro. Saluto anche Gaia, la nostra capo redattrice e assistente in tutto e presto anche autrice di questa trasmissione. Lo voglio fortemente. Il film è The Social Network. Sì, un altro esatto. Bellissimo film dove tu facevi Ernie Hammer ed era lui faceva i due gemelli, lui, i due gemelli. Gemelli terrificanti, sì, sì, poi storia vera, terribili. Pazzesco quel sì. Film, guardatelo se non l'avete visto. Social Network, lui è sempre Marco Vivio ovviamente. Buongiorno a lei signore. Cameron Winklevoss, mio fratello Tyler. E siete qui perché volete? Risponda chi vuole. Pensavo stesse leggendo la lettera. Già letta. Dunque, avevamo avuto un'idea per un sito web chiamato Harvard Connection. Veramente adesso il nome è ConnectU. Mark Zuckerberg ci ha rubato l'idea. Ho capito. E vi chiedo che cosa volete che faccia. Vede, signore, nella guida di Harvard distribuita agli studenti del primo anno è scritto nella sezione che riguarda le norme di comportamento che il college si aspetta che tutti gli studenti siano onesti e disponibili nell'interagire con gli appartenenti a questa comunità. Agli studenti viene richiesto di rispettare la proprietà pubblica e privata e qualunque caso di furto, appropriazione indebita o... Sì, signore. Dammi un pugno in faccia. Continui. Di utilizzo non autorizzato verrà punito con azioni disciplinari che includono la sospensione dal college. E lei ha memorizzato questo invece di fare cosa? Oh, so che io e mio fratello siamo venuti a chiederle rispettosamente. Signore, certo. Rubare è contro il regolamento universitario, chiaro e semplice. Lo sai, responsabile della vostra house? Sì, signore, e lui l'ha segnalato al consiglio universitario, ma il consiglio non ci riceve. Avete cercato di chiarire con l'altro studente? Il signor Zuckerberg non risponde al telefono e alle nostre email da ormai 2 settimane. Non apre quando bussiamo alla sua stanza. Il nostro contatto più ravvicinato con lui è stato quando l'ho visto in cortile e l'ho inseguito per tutta Harvard Square. L'ha inseguito? L'ho visto e lui mi ha visto, lo volevo raggiungere. Ma è sparito. Scusate, sono rimasto stupito io perché sì. Io pensavo che eri uno dei gemelli. Tu hai doppiato no, tutti e due i gemelli. Tutti e due, sì. Cercando di differenziare appunto in sì. Base al carattere. All'emozione. Perché uno dei due è un po' più timido, l'altro è un po' più sfrontato. Quindi cercando di differenziare nella recitazione e anche leggermente vocalmente. Sì. Poi questo è voice anatomy, mi provo esatto, casa tua in quindi... questo. No, no, bellissimo. E lo ammetto, beh, straordinario. È divertente. Molto, bello, bello, una grande non prova facile, d'attore. È divertente. Calcio, doppiatore, attore di cinema, quale vuoi? Che volevi diventare? Non lo so. Calciatore però ce l'avevi dentro. Calciatore ce l'avevo, sì, scambieresti sì, sì. Ancora la tua carriera con quella di un calciatore? Non lo so. Di un buon calciatore, ovviamente. Beh, di un calciatore di livello, sì. La scambieresti? Sì, sì, sì. Mi è rimasta questa passione e tuttora la coltivo. sì, tornei vari, partite. Non c'è niente da fare, la gioia di un gol è superiore a qualsiasi applauso. Non c'è niente da fare, perché ti arriva in un momento inaspettato. È un orgasmo con tutte le persone che sono presenti. Metti un applauso, magari lo prepari, lo apparecchi e quello arriva. Noi te lo facciamo l'applauso perché te lo meriti tutto. Grazie, grazie mille, grazie, no, grazie a te Marco, grazie davvero, grazie a voi che ci avete seguito. Noi non spariamo, ovviamente, nel senso, non con le pistole, non scompariamo dalla scena, perché domenica prossima saremo tra le vostre braccia, dentro i vostri padiglioni auricolari. Voice Anatomy torna domenica prossima, grazie per volerci così bene.